Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati. www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito. Questa trasmissione è prodotta da italianpodcastnetwork.it insieme anche agli amici di Retrocast e qualche branchia così sparsa di archeologia videoludica. Quindi insomma siamo in tanti, ci vogliamo tutti bene, abbiamo fatto questo grande agglomerato. Ringraziamo Alex Raccuglia soprattutto per la parte tecnica e gli assets che ha creato per noi. Insieme a me come conduttore siamo finalmente tornati. Sapete, ci siamo state delle puntate che eravamo fuggiti. E ovviamente Stefano Big Joe Bigio. Buonasera, buonasera amici, grandi e piccini. Prego. Entusiasmo, no, fantastico. Pensavo che dovessi continuare. No, finiamo di dare i riferimenti. Io do la mail e tu dai il Twitter, chiaramente. Twitter è... Twitter è Dietrologia Videoludo. Sei sicuro di questo? Sì. Oramai è un anno e più di tempo, oramai ancora io ho questi dubbi. E poi Dietrologia Videoludica @gmail.com è ovviamente la nostra posta elettronica. Ci trovate chiaramente sia su quel fantastico social network che si chiama Google Plus, dove c'è l'amico William Shatner. Poi dopo... Esatto, poi ne parleremo. Sai che questa cosa l'altra volta a Stefano gli era mancata, si era sentito male. Ma quando non c'è Marco un po' manca sempre. E ovviamente su Facebook c'è la nostra pagina, fate mi piace, siamo ancora un po' indietro rispetto a archeologia videoludica e tante altre pagine, ma ci rifaremo prima o poi. Insieme ovviamente a me e Stefano Biggio abbiamo, non poteva mancare, non perché il tema è interessante, ma perché è l'autore proprio della puntata, quindi il tema deve essere interessante per forza, abbiamo Giuseppe Sasso, padrone di casa. Buon salve a tutti. Padrone di casa, diciamo. Ecco, sentite l'entusiasmo del pubblico pagante, tra l'altro. Accanto a Giuseppe Sasso, come diceva giustamente padrone di casa, abbiamo anche Marco Gualdi, il distruggitore. Grazie. Sentite le applausi che scrosciono. Questo è l'effetto sonoro che ci ha prestato Bertoni. Esatto. C'è il copyright. No. Sentite proprio. Diciamolo subito che in realtà Marco Gualdi non era previsto per questo episodio. Quindi dovremmo cacciarlo da un altro episodio. Però, siccome che guida, purtroppo è dovuto intervenire. Ultimo, ma non ultimo, last ma non list lost. C'è anche il nostro amico Luigi Marrone. Che si è appena svegliato, giustamente, Luigi Marrone. Tutto a posto, Luigi? Sì, tutto ok, siamo ben desti perché qui abbiamo dei galli che ci svegliano la mattina. Voi magari avete dei visigoti. Altre invece degli ostrogoti. No, noi ci abbiamo i vandali. Adesso vi racconto una cosa che non c'entra assolutamente niente, ve la racconto brevissimamente e poi iniziamo la trasmissione. Un altro giorno, sapete che io ho un'agenzia di assicurazioni, è entrato un tizio un po' buzzurro, diciamo la verità, no? E ci aveva chiesto informazioni su una polizza. A un certo punto mi ha fatto: ma su sta polizza ci sono i vandali? E io non so perché mi immaginavo la polizza assicurativa, la macchina ad esempio. Sì, immaginavo praticamente sta polizza con tutti i vandali sopra, che la cosa, in realtà lui intendeva gli atti vandalici, suppongo. Però lui è proprio i vandali, intendeva proprio i vandali. Va bene, allora, puntata ricca e ciccia questa puntata, come abbiamo detto, ideata da Giuseppe Sasso. Quindi lui ha scritto sia l'introduzione che le parti fondamentali, anzi io direi l'intera parte della scaletta. Noi abbiamo semplicemente messo poi delle riflessioni, quindi è giusto che entriamo nella parte viva della trasmissione dopo lo stacco. Ci sarà sempre la solita lettura di Stefano Biggio, che ovviamente è poi Poi insomma le danze le condurrà un po' anche Giuseppe, che chiaramente poi, oltre a esprimere le sue considerazioni, dovrà guidarci in questo suo saso pensiero, che tra l'altro è diviso in capitoletti, quindi è carino anche nominare anche i perché noi non sappiamo minimamente che cosa succederà, quindi lui che ci dice sì, è vero, io come direttore d'orchestra agita la bacchetta e noi parliamo, quindi entriamo nel vivo della trasmissione. Allora, sì, io... Mettiamo, come al solito, apposita musicazione. Questa volta sì. È un'apposita musicazione, non è quella del milionario, ma mettiamo una cosa un po' più romantica, un tappetino, perché questa introduzione ci porta alla riflessione profonda di questa puntata. Che io lo dico seriamente, poi. Traiamo dall'album The Black Sabbath, quindi... Black Sabbath, sì. Allora, io annuncio in primis che sono reduce, ma dall'influenza ho tuttora la tosse. Vabbè, quindi... ma tu c'hai sempre da fare queste premesse. Non ce ne frega più un cazzo, oramai, lo sai che non... Dai. Tu guadagni 4 gozziglioni di euro a settimana, dovresti anche fottertene. Stai anche tornando in Italia a rubarci... La disoccupazione, cioè vieni qui a toglierci la disoccupazione, cioè state in Svizzera. Sì, tornerò 10 giorni, ruberò della disoccupazione e poi ritornerò per farla fruttare in Svizzera. E pensate che ha prenotato il biglietto aereo del quale ha terrore di prendere l'aereo, poi sì. Da Milano sta cercando di prenotare un treno da Milano per la Sardegna, non per so la Sardegna, mi piace fare un po' il contrario e dice non riesco a prenotarlo questo treno. No, poi ho capito perché non ci riuscivo, perché stavo cercando solo porta in faccia, no, io stavo cercando di convincere la società dei treni svizzera che Milano fosse in Svizzera. Uh-huh. Non sono d'accordo e purtroppo la cosa ne ha risentito, quindi ho capito, vabbè vai con la comunque. Musicazione quindi perdonerete se la mia voce sarà un po'... Fai scatarra anche se vuoi. Sì, purtroppo, caracchio, alla grande. Comunque inizio, bene. Quindi accade così, di colpo. Un giorno spegni la console e all'improvviso ti accorgi che i videogiochi non ti trascinano ed emozionano come un tempo. Non c'è più alcuna traccia di quella fanciullesca ingenuità, la sindrome di Peter Pan è svanita. Hai appena smesso di giocare di soppiatto nella manciata d'ore sottratte ad un sonno del quale hai imparato a non sentire più il bisogno. Non sei più la persona di una volta, sei cresciuto, biologicamente invecchiato, forse anche più maturo. Niente come prima, gusti, abitudini, livello di sfida cambiano. Gli impegni e le spese quotidiane sono tutti fattori in continuo divenire, mentre fatichi a trovare il tempo di stare dietro alla tecnologia che sforna costosi scatoloni neri dalla grafica venieristica e dalle molteplici funzionalità. Fetici elettronici che non riponi più nella tua cameretta, bensì nel salotto di casa. Alla soglia dei 30 anni, la terza età videoludica, continui imperterrito a perdere tempo dietro qualcosa che tu pensi abbia ancora un briciolo di dignità. Perché? Si tratta forse di passione. Quando finirà mai quest'idilliaco amore platonico? Siamo la generazione degli eterni bambini, la generazione che da un lato vuole crescere, ma dall'altro non vuole abbandonare quello che l'ha fatta crescere, l'aspetto videoludico della vicenda. E per questo siamo una generazione estremamente bistrattata. Siamo i mammoni, gli eterni bambaccioni, che restano basiti nel momento in cui un giovincello qualunque, pieno di tracotanza, si rivolge a noi dicendo: i giochi da tavolo non mi interessano, il passato è passato, mentre il presente c'è. No, non tanto per Biggio, che è stato bravissimo, ma per questa citazione finale, che oramai tra l'altro è ridondante nella rete, pure stamattina qualcuno l'ha ripostata. Mi pare che... Simone, la devi registrare, mi raccomando, ormai è una firma di... Dobbiamo un copyright, il passato è passato. Luigi, tu che sei... Sì, io che sono l'accusatore. Esatto. Perché sai che stamattina a settimane di distanza, ancora stamattina c'era qualcuno che postava questa frase e poi sotto gente scriveva Luigi Marrone for president e roba del genere. Quindi cioè, oramai è diventato un cult, diciamo che ci fa piacere, insomma. Sì, vogliamo diciamo Luigi Marrone sulla rupe tarpea. Questa cosa è sempre maggiore di intollerabilità e di indignazione. E quindi sentendo anche i bambini adesso tiene delle inesattezze concettuali, per noi appassionati nerd fa scattare, insomma, fa urlare il sangue nella testa. Certo. Ok, allora il mio voto è 7, dai, 7, alla fine non si è comportato malaccio, diciamo che è un po' fuori allenamento, 7 è un po' arruzzinito, sì, ragazzo. Sì. Come sì. Manca una puntata da dietrologia videoludica, si affoscia, lui si butta giù, si smosce, ma tanto sono arrivato ormai. Ho letto bene. Tanto mi hanno promosso, che cazzo me ne frega. Innanzitutto non era Bambacioni, ma Bamboccioni. Sì, poi l'ho personalizzato. Dai, è una licenza poi. Hai chiesto il permesso? Scusa, c'è l'autore. Poi chiedono permessi per le licenze, scusa, poetiche ovviamente, però non di pesca, però anche questo. Quindi no. No, non è chiesto. Okay, va bene. Poi te sei un po' impappinato, dai, su mo. Vabbè, Giuseppe, tu che voto gli dai? No, io sono un pochettino più buono, anche perché comunque dai, è riuscito a far fare un figurone comunque alla mia introduzione scritta così di getto, quindi gli do 8. Marco, io 7 e mezzo. 7 e mezzo. 7 e mezzo perché comunque c'è avuto degli intoppi. E poi comunque qui la passione, la passione non viene fuori, cioè sei freddo, comincia a usare osa, Cristo, osa, comincia a tirare fuori camera, cosa devo fare? E che ne so, leggilo in piedi sul balcone, fai qualche cosa tu. È come sull'attimo fuggente, bravo, no, esatto, ti alzi in piedi, sali sopra la scrivania e lo leggi con la finestra aperta, così il svizzero che sta dall'altra parte dice svaganzi svizzi italiani merda, capito, queste cose italiani sempre a fare casino, sempre fare casino, pizza, mantolino, eccetera. Luigi, tu invece? Sì, io per la prima volta ho ascoltato senza avere il testo davanti perché volevo assorbire la sua espressione emotiva più che quella letterale. E devo dire che invece mi ha colpito perché ho sentito un'anima dietro questa lettura, cioè lui era veramente preso da questo discorso, si stava concentrando e ha fatto venire fuori tutta la sua carica espressiva. Beh, forse un po' grazie, noi, Luigi, qualcuno che ha capito finalmente. Cioè, ecco, io ho 40 anni, voi insomma, magari ecco, forse Luigi, tu quanti anni hai? Io ce n'ho 4 meno di te, quindi dai, forse noi questa cosa che ha scritto Giuseppe cominciamo quasi a capirla. Cioè, stessi, quando ho letto questa cosa ho detto, beh, forse questa è anche un po' la puntata per noi, un po' triste. Ma siamo tutti, scusa, over 30, no? Beh, no, quanto io ho 27. Ah, il ragazzo a merda, il ragazzino, vattene a far culo. Sto bimbo minchia. Ma sai perché c'ha sta voce rude, capito? Che è molto sexy, tra l'altro. Ho letto qualcosa su un bimbo minchia. Sul termine, sì, bimbo minchia. Che in qualche modo ti riguarda? È un discorso a parte. È un discorso a parte. Un giorno la. Ecco. Hanno violentato una scimmia. Va bene, io a questo punto, dato che insomma i punti non sono tantissimi, ma sono belli pregni, Giuseppe, iniziamo. Okay. Allora io. Comunque, l'argomento ovviamente abbiamo detto che si tratta della terza età videoludica, quella che più o meno stiamo vivendo tutti, no, tranne Biggio ovviamente, che lui è vabbè, è ancora... ragazzi miei, cioè fra 3 anni la terza età ce l'ha dentro lui, sì. E quindi ho suddiviso appunto la scaletta in diverse fasce d'età. Ovviamente cominciamo cronologicamente dalla prima, quindi dall'infanzia. Io diciamo, ho scritto, probabilmente vi è capitato almeno una volta nella vita una situazione in cui magari siete ragazzetti, avete anche finito i compiti e comunque nonostante questo vi si avvicina magari un familiare, un parente, un fratello, un amichetto, quello che volete voi, esordendo con la classica frase, ma insomma smettila con questi giochetti, ormai sei cresciuto, è ora che bisogno. Ti tocchi, insomma, cioè basta con i videogiochi. E quindi partendo da questa da questa frase io mi sono chiesto, ma secondo voi esiste una fascia d'età per videogiocare? Cioè si comincia da giovani e poi a per smettere di giocare, cioè non per giocare, no, proprio per giocare, cioè quindi per giocare. Poi ovviamente esiste anche di rimando un'età per smettere, okay, diciamo i videogiochi ormai non per cominciare, non sono, diciamo, per cominciare. una per cominciare e una per smettere. Allora, io comincerei a questo punto, io inizierei da Luigi. Tiè, beccate questa, poi Stefano, Marco, Giuseppe, chiaramente io sarò molto veloce, Allora, sì, mi è capitato ovviamente di avere un rimbrotto da parte dei miei, soprattutto mia madre, che diceva che avrei perso la vista fondamentalmente davanti ai giochi. Quindi tra questo e cominciato si perde sempre la vista. C'è sempre un motivo per perdere la vista. Ricordati questo. Esatto. E quindi niente, mi è capitato più volte, in maniera diciamo abbastanza morbosa, una volta quando andavo in chiesa, mi ricordo quando ero ragazzino, non vedo l'ora che finiva la messa, facevamo tutte anche il chirichetto, per andare a tornare a casa a giocare, soprattutto quando ero passato appena da mio cugino che aveva forse il più grande pirata d'Abruzzo quale migliore amico e quindi mi caricava di dischetti da 3 pollici per il Commodore Amiga e là volevate stare, io non vedo l'ora di tornare a casa. Io mi sarei sparato il suicidio da bambino se non avessi avuto questi giochi, questa vita a cui aggrapparmi. Per cui sì, mi è capitato e insomma, mi piace l'immagine del più grande pirata d'Abruzzo. Sì, sì. Immagino un pirata abruzzese. Sì. Una persona, come dire, tranquilla, però aveva tutto. Era un diavolo dell'hacking, tra l'altro, quindi craccava tutto quanto. Però Luigi, esiste un'età per videogiocare o un'età per smettere di videogiocare? Forse più la seconda che la prima, secondo me. Guarda, io penso questo, sono veloce anche in questa risposta. Con lo sviluppo tecnologico, quindi fondamentalmente con l'avvicinarsi ai gusti dei giocatori, l'età è come l'età pensionabile per il videogioco, come l'età pensionabile, cioè si allunga sempre di più, perché escono sempre esperienze che sono capaci di titillare o di avvicinarsi ai linguaggi come più li preferiamo secondo le tendenze d'avanguardia delle altre forme espressive. Per cui presumo a noi ci piacciono adesso le spuntate a sé, le serie con fatte a puntate, quindi posso dire la vostra serie, ecco, la spada, il trono di spade, giusto? Si chiama così. Sì. Ecco, usciranno sempre più dei giochi fatti a capitoli che titilleranno la nostra voglia di giocare a puntate, a sprazzi, e quindi potremo giocarli anche quando abbiamo 40-50 anni, per intenderci. Ricordiamo che in America l'età media, diciamo, dei giocatori si è alzata moltissimo, ci sono molti ultra 50 anni che giocano. Quindi secondo me dipende dal videogioco. Se prima un gioco retro gaming non aveva quell'appeal pazzesco per un cinquantenne, oggi magari un cinquantenne vedere un gioco tipo, metteteci un gioco che volete attuare, contemporaneo, ti dice a cazzo bello, un gioco volentieri. Faccio un esempio. Stefano. Bene, io invece no, dico che secondo me allora la domanda a chiederla a noi è scontata, perché dubito che qualcuno di noi dica non c'è più l'età per non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire con per te giocarti. No, penso che nessuno di noi dica che c'è un'età limite entro la quale giocare, tolta quella che magari hai 150 anni e non riesci più a vedere o a tenere in mano il pad, ma diciamo non c'è un'età mentale per la quale smettere di giocare. Penso che la domanda magari serve da fare a persone che giocano poco, non giocano, non lo so. In questo caso penso che la risposta sarà collettiva, quindi che non c'è un'età per smettere di giocare. E io, contrapponendomi a Luigi, nessuno mi ha mai detto di giocare di mano che perdevo la vista, però ho perso la vista comunque, quindi non perché si è toccato. Penso che sia per quello, cioè, ma non è che ha perso sulla vista, però no, ho anche peli, cioè, molto più peli nella manica, tutta quella serie di cose che succede. Perché poi dopo se noi ci pensiamo, cioè nel senso, noi vediamo tutti da regioni diverse, eppure cioè, la cultura è quella, cioè nel senso, cioè, i luoghi comuni quelli sono stati in tutto il resto del mondo. Fantastica questa cosa. No, e poi personalmente più che mi dicevano smettere di giocare ai giochini era più il fatto ma stai ancora giocando, più di smettila, magari certe persone sono stupite che fossi ancora appassionato come quando ero più piccolo, diciamo. Chiaramente magari loro si rapportavano a come ero io a 12 anni e come posso essere adesso, non cambia molto, però a parte questo, dico, è chiaro che magari c'è un modo di giocare un po' più oculato, ecco, cioè non è che non ti fermi solo al fanboismo, non ti fermi solo al insomma a determinati aspetti del videogioco che magari sono superficiali, fai anche un approccio un po' più profondo, ecco, col passare degli anni. Però no, io personalmente sì, se ti interrompo Stefano, questo approccio che tu dici, e poi in realtà era comunque seguito dall'altra domanda sempre di questo punto, cioè che se i videogiochi meritano comunque tutto il tempo che noi diamo loro, questo che tu dici come approccio è una cosa tua personale, ma gli altri comunque quando ti fanno questa domanda perché non, loro non potranno mai percepirlo. Quello che stavo dicendo è che io so che è cambiato questo, per loro magari continua, cioè è come se non fosse cambiato niente, cioè continua il giochino, dove vai, dove spari, c'è più una forma di scetticismo tra virgolette nel vedermi giocare da parte di certe persone, dipende un po' dalla cosa, però tutto sommato basta spiegare un po', insomma, se uno perde secondo me un po' di tempo a spiegare com'è la situazione adesso, quali sono i propri interessi, ci si mette anche in una posizione diversa che non è solo quella del videogiocatore compulsivo che deve giocare a Gears of War per sparare agli altri dodicenni mentre bestemmia napoletano sul microfono. Come ci è capitato più volte, insomma. No, vabbè. Io invece penso che più che altro, più che un'età per giocare, c'è un'epoca. Perché comunque io non penso che oggi come oggi ci sia un'età per giocare. Più che altro una volta il videogioco era un gioco per bambini, ragazzi. I grandi che ci giocavano erano quelli che giocavano fondamentalmente con i figli. Per cui vedere un negli anni 80 uno di 30-40 anni che giocava a un gioco era un po' strano, era come vedere uno che giocava con i soldatini a 40 anni, insomma. Cosa sono i rodarini? Esatto, cioè i soldatini. Ho sentito rodarini, i famosi rodarini. I rodarini, i rodari forse, non lo quindi so. È come i cartoni animali, no? Un tempo si riguardavano soltanto, erano tutti quanti considerati per bambini, anche se i cartoni animali dove c'erano persone sventrate, ammazzate, erano per bambini, poi si è capito che c'erano anche per adulti e non solo quelli dove la gente perde la vista. Sì, vabbè, poi di questo ne abbiamo parlato, esatto, già. Per cui, insomma, adesso che c'è più videogioco nel mondo, cioè, ci sono le console, si è aperto tutto un mondo anche non solo per i ragazzi, i bambini, ma anche per chi lo era una volta e quindi ha comunque una cultura diversa. E secondo me adesso non c'è un'età per giocare. Adesso il videogioco lo si può giocare in qualsiasi età, anche perché poi comunque tutti giocano a qualsiasi età, è il gioco che cambia, non è più magari a 60-70 anni non sarà più la scopetta con amici, magari fra 20 anni ci vedremo tutti quanti in rete a giocare a Call of Duty 72 e ci ammazzeremo, sei un bastardo, ti ho preso in testa, e faremo quelle cose del genere. Cambia un pochino la prospettiva e il tipo di gioco, ma fondamentalmente giochiamo tutti, quindi. Guarda, io penso invece allora, cioè in realtà a noi, giustamente Giuseppe ha fatto ha rapportato il discorso sul videogioco non soltanto perché è di ideologia videoludica, ma perché se noi l'allarghiamo al gioco in senso più lato, quindi in senso più allargato, chiaramente poi dopo poteva subentrare una discussione che non finiva mai. Però io penso che esiste un'età logica, cronologica, per la quale essere più predisposti al gioco, perché è il gioco lo strumento con il quale noi evolviamo, no? Questo può essere il gioco, che può essere il Lego, come può essere anche il videogioco. Non esiste secondo me un'età cronologica nel senso adatta reale, perché poi cresci comunque con il gioco, esatto, noi giochiamo, interagiamo con il gioco, cioè nel senso un modo anche di mantenere un certo tipo di creatività, roba del genere. Esiste però dall'altra parte un'età cronologica che alla fine pone un limite, come per i calciatori, no? Come per lo sport, come per tante cose. C'è un momento sono limiti fisici. Esatto, no? C'è un limite oltre il quale tu ovviamente non puoi più andare, quando ovviamente i riflessi non ti reggono più la partita Call of Duty. Il multiplayer ci sarà magari Call of Duty assistito per i vecchi ci sono i Geratrial Duty per i personaggi vecchi se ormai hanno introdotto pure il cane, ci sarà anche il cane guida, esatto, il cane per i ciechi. E in effetti pure questa cosa sarebbe da verificare. Ecco, per quanto riguarda invece a me il discorso, ecco, se mi hanno mai detto sì, nel senso, mia madre era prevalentemente preoccupata per il televisore quando gli strumenti erano, cioè quando le console i computer li attaccavi al computer. Era parente con mia nonna, perché si affacciava e spacchi la televisione. Mia madre c'aveva questo problema qua, tant'è che una volta è sempre attaccato questo coso, mo lo rompi, mo lo rompo, e a un certo punto il televisore diventa tutto giallo, quindi cioè nel senso mi aveva fulminato quella volta quella cosa lì, ecco, te l'avevo detto, che cazzo. Però in realtà non l'unica cosa volta che veramente mi ha detto, cioè, ora che smetti di fumare, erano le 4 di mattina, stavamo giocando a FIFA con un mio amico, io a casa a Roma c'avevo una stanzetta dove c'avevo il computer, quindi era isolata dal resto della casa. Mia madre entra con gli occhi mezzi chiusi perché giustamente stava a dormire, c'era fumo che voi non potete immaginare, quindi neanche ci vedeva. Mia madre stava là, ci è mandata a dormire. E stavamo lì e noi seminavamo perché c'era un amico mio della Juve che vinceva sempre, lo prendevamo a cazzottoni perché ci faceva rosicare. Quindi, cioè, il gioco secondo me è un fondamento sia nelle relazioni che nella nostra esistenza, quindi lo puoi applicare al gioco manuale come al gioco al videogioco, io penso che poi chiaramente col fatto che i videogiochi sono cambiati e quindi come diceva Luigi prima, il fatto che non è più il retro game, quindi il gioco di una volta che era veramente difficile, no? Nel senso, oggi bene o male il gioco videogioco è la portata di tutti, tutto sommato, no? Saso, allora io sono d'accordo con quello che hai detto tu, quindi non esiste una fine se non appunto per ovvi limiti fisici e biologici, però in realtà come ovviamente visto che l'ho scritta io questa cosa, mi ricordo in particolare due eventi particolari, due momenti che è spuntata fuori questa frase. Uno ovviamente è stato pure quando ero piccolo, il pallino dell'informatica e dei videogiochi, quindi mi è stato inculcato da mio padre che insomma aveva portato a casa sin dall'inizio un Commodore 64 Executive e ai primi tempi io giocavo con lui, ero molto piccolo, poi però da un certo periodo in poi lui aveva smesso lui di giocare perché gli piaceva lui, cioè il pallino con la programmazione, e di rimando quando però mi vedeva a me usare il suo Commodore, poi anche in seguito l'Amiga eccetera, solo per l'attività ludica, se ne usciva sempre con questa frase, insomma, quasi come per dire smetti, insomma, cresci un pochettino, e questo mi è sempre un po' colpito. E l'altro invece evento, questo diciamo, mi aspettavo che uscisse fuori, cioè fosse una cosa comune anche nelle vostre esperienze, però pure per esempio che so, ai tempi del liceo per esempio, ovviamente sto parlando di degli anni 90 comunque, dove ancora quindi al limite c'era al massimo da poco uscita la prima PlayStation 1, comunque il gioco sì, era già un po' più diffuso, però non era comunque ormai la moda di oggi, quindi anche tipo tra i liceali, se tu stavi solo a giocare ma non partecipavi alle partite di pallone sotto casa o facevi altro, no? Come attività, comunque venivi bollato lo stesso, venivi escluso, e questa frase una volta un altro mio amico me l'ha detto, perché diciamo io lo spronavo a rimanere magari quel pomeriggio a casa, mentre invece lui voleva uscire e andare a giocare con gli altri a pallone per esempio. Quindi devo dire che effettivamente questa frase purtroppo mi è capitata poi più volte. Ha perso la vista giocando a pallone, sì, esatto. Una pallonata, no? Succede anche nelle altre, una pallonata c'è avuto un distaccamento della retina, quindi. Ma succede, sì. Però sì, poi oggi come oggi in realtà il gioco, come hai detto anche tu Simone, è ormai molto integrato anche come differenziazione, anche la gente che normalmente non si sognerebbe di giocare con una PlayStation, con un Xbox o una Wii, comunque magari è attratta perde, diciamo, spende la sua oretta quotidiana a giocare magari ai giochi su Facebook o anche a Razzle su uno smartphone, su un tablet, quindi comunque appunto cambiando il gioco, diversificandosi le varie tipologie, comunque hanno fatto sì che di fatto questo limite superiore cronologico non esista più. Sì, perché se i riflessi cedono vai sul puzzle game. Se la mente cede, quello è l'ultimo dei tuoi problemi, gioca insomma a quel punto, cioè se non c'è più riflessi in mente vai tranquillo. Allora, poi come altro punto, cresciamo un pochettino, quindi arriviamo a una cosiddetta fase di emancipazione. in cui magari già abbiamo avuto il primo impiego, anche se ormai qua in Italia è un po' difficile. O comunque magari facciamo dei lavoretti, dai, ancora non abbiamo impiego, stiamo studiando, tipo che so, siamo universitari, i primi anni di università, e stiamo facendo pure anche dei lavoretti per mettere da parte un gruzzoletto, no? Quindi si cresce, quindi aumentano questi impegni. Io direi una cosa contemporanea è oggi chi non lavora gioca più ore. Ma vorrei vedere se mi riuscite a smentire questa cosa qui. Oggi praticamente si riesce a giocare di più proprio perché non c'è il lavoro. Era bello, una cosa triste questa. È brutto, sì. No, però ci possiamo ragionare. Vabbè, è vero. Comunque prima sì, seguiamo il punto. Poi... No, comunque è connesso perché fondamentalmente, in ogni caso, cercando di lavorare, tu aumenti il potere d'acquisto fondamentalmente proprio perché volevi staccarti dalla protettiva dei genitori e volevi comunque essere fine economicamente indipendente, appunto, per poterti permettere qualche sfizio fondamentalmente. Però per chi è che ormai è sulla soglia dei 30 anni, magari c'ha famiglia o sta per i fatti propri, quindi c'ha una casa, magari deve pagare ovviamente a fine mese mutuo, bollette, quello che è, ovviamente si palesano tanti imprevisti. Secondo voi il videogiocatore come adulto come riesce a conciliare tutto ciò? Luigi. Allora, anche dalle proprie esperienze personali, ovviamente. Qua ci stava ben la ranocchia, però io tu quando c'è un momento di vuoto. Ragazzi, non è facile, è un bel tema, insomma. Scusa, ti ho messo a disagio. Se vuoi facciamo la domanda di riserva, quella no, che. No, intanto sto cercando di guardare l'età, perché l'emancipazione vuol dire che siamo passati dall'infanzia, tipo quando c'hai 22, 23. Esatto, anni. Esatto. Sì. Quindi è proprio un salto, non è differente. Quello o comunque al limite te l'ho detto quando hai magari cominciato a. Ma forse perché secondo me, questa però è una mia interpretazione. Il primo blocco parlava di infanzia, ma anche d'adolescenza, secondo me, per certi versi. Ok. Guarda, io la mia esperienza, perché posso parlare di questo tipo di esperienza, che poi magari può essere quella di ciascuno, è stato quello. Secondo me si vive un periodo durante l'adolescenza in cui ci si distacca dai videogiochi, cioè non si reinquadra. Vi sto parlando ovviamente sempre di videogiochi come li intendevamo noi, che abbiamo vissuto, presumo, più o meno alla stessa età, i giochi, diciamo, dell'era 8-bit, quindi videogiochi simbolici, fino ad arrivare all'era, diciamo, dei videogiochi più realistici, al 3D, e quindi ad una realtà molto più immersiva e soggettivamente più suggestiva. Quindi cosa è successo? Succede che si passa da un modo di intendere il videogioco a un altro, proprio perché cambia sia il modo di giocare sia la capacità che il videogioco ha di coinvolgerci. Quindi noi abbiamo potuto vivere, parlo presumo per ciascuno di noi, un periodo in cui potevamo distaccarci perché staccavamo il periodo simbolico ed entravamo poi all'interno di quello un po' più realistico. C'è tanta gente, non ci scordiamo, che era cominciato a giocare con la PlayStation, con i vari Resident Evil eccetera, perché dicevano: cavolo, sembra un film, qua questo mi legittima il tornare a giocare. Vi faccio questo esempio. E quindi c'è da fare prima quel discorso tecnologico che va a toccare, quindi l'aspetto dell'appeal del videogioco che poi ci fa tornare sui nostri passi. Per quanto riguarda l'emancipazione, sicuramente i videogiochi sono beni di lusso, quindi poterseli permettere, poter fare questi famosi viaggi, presume la possibilità di poter accedere alla loro offerta, che è abbastanza alta e sconfinata. E più ci vuole una competenza. Quindi io penso che l'emancipazione è pure legata anche a un interesse intrinseco, perché essere competenti in videogiochi oggi vuol dire avere conoscenza di un vasto mondo di cui tutte le offerte poi abbiano una loro valenza precisa, singolare e individuale. Quindi vi ripeto, ci sono molti, per esempio, molti lavori secondo me che non permettono questo tipo di realtà. Quindi oggi il precariato è diffusissimo, non penso che un ragazzo possa accedere così facilmente al mondo dei videogiochi come ce lo immaginiamo. E poi soprattutto c'è il fatto che se non si crea una comunità secondo me è difficile poi poter portare avanti oggi come oggi la propria passione, perché è tutto legato ad un aspetto social adesso del videogioco, quindi legato a degli aspetti in cui c'è condivisione, c'è forum di discussione, gruppi e altro. E quindi l'emancipazione, come lei presumo intende Giuseppe con questo punto, ha da rivedersi in tanti modi sia di giocare, sia di accedere al videogioco, sia sull'età con cui abbiamo vissuto questo passaggio dall'adolescenza all'età adulta, quella più responsabile. Stefano. Sì, allora seguite sempre questo giro, così almeno sono non scaracchio, non so. No, nel senso che comunque quando Peppe legge, cioè nel senso lancia la riflessione sempre Luigi, sì. Stefano, Marco, io e poi Peppe, okay. Che conclude e rinizia il secondo giro. Va bene, do la mia esperienza personale, un parere generico, tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi, anche entrambi. Personalmente ho visto che lavorando, vivendo da solo, eccetera eccetera, negli ultimi vivo da solo da 7 anni forse, una cosa così, sì, circa, ho giocato magari di meno ma meglio tra virgolette, nel senso che magari il tipo di gioco è stato un po' più attento perché il tempo a disposizione era di meno, quindi mi sono focalizzato di più mentre giocavo e forse ho apprezzato di più il momento in cui stavo giocando, proprio perché come dire, era tempo che ero riuscito a dedicare a un hobby, una passione, quindi insomma una cosa che non era scontata, ecco. Manca un po' il fatto che rispetto a prima chiaramente non avevo la possibilità magari economica di permettermi un maggior numero di titoli, ma avevo molto più tempo per giocarli più a fondo, mentre invece magari adesso devo ritagliare un'ora al giorno, dove però dico adesso mi dedico a quello, non cercatemi, non esisto per nessuno, è finito lì. E in generale penso che si debba far così tra figli, mogli, fidanzate, lavoro. L'unica è godersi di più quel momento se possibile, perché mi rendo anche conto che non sempre, se uno ad esempio è un bambino piccolo a cui deve badare, non sempre è possibile farsi una sessione di 4 ore di non lo so, di Uncharted, ecco. Pensavo Mass Effect. pensavo Mass Effect. No, l'hai detto, bravo, non volevo dire lui. Bene, abbiamo preso dei soldi, questo mi fa piacere. Se gettoni d'oro ce l'abbiamo sempre. Quindi sì, tendenzialmente è questo, ti devi ritagliare lo spazio, uno spazio all'interno del tuo mondo. Poi quanto sia quello spazio dipende da quanta importanza dai al media videoludico e a quanta importanza gli vuoi dare o gli puoi dare, perché magari ne dai tanta ma il tempo è quello e c'è poco da fare, non puoi giocarci. Quindi sì, purtroppo è quello, da un punto di vista secondo me si gioca meglio ma meno, e insomma la vivi in maniera un po' più ansiosa tra virgolette, nel senso che ti manca di più tutto il tempo libero che avevi prima, la possibilità di sviscerare magari a dovere quel gioco quando hai tante cose per la testa, magari in un certo momento non hai neanche magari l'impegno del lavoro della ragazza e i genitori non ti rompono, ma hai davvero altre cose per la testa per le quali, data l'età, diciamo, che magari non ti permette di giocare o di goderti l'esperienza a dovere. Hai più grilli per la testa, ecco. Questo più o meno è quello che penso io. Bella storia dei grilli. Comunque, no, vabbè, io penso che penso che alla fine il videogioco è un gioco. Quando è che si gioca? Quando ci sono dei tempi morti, fondamentalmente, quindi quando ci si annoia, quando si vuole comunque riempire dei buchi. Alla fine sono morto, vuol dire sei un tempo morto. Questo è molto perché io non condivido tanto questa affermazione. Comunque, certo che se tu stai a fare un'altra cosa che ti diverte, cazzo, devo videogiocare, no, è ovvio che. Ma magari videogiocare mi diverte più di fare tante altre cose, so, però quando c'è tempi morti, non lo fai quando c'è altre cose da fare. Cioè, non sto facendo, non sto dicendo certo che è brutto. Se, non è che certo, se sono un chirurgo, non è che vado a videogiocare invece di operare. È quello che dico. Ma non è un tempo morto, è un'affermazione un po' drastica. È un tempo morto, quando non c'è un cazzo da fare, videogiochi. Non sono d'accordo. Oh, allora, posso non essere d'accordo. Quando sono altre cose da fare. Cioè, certo. Quando devo giocare il tempo è vivo. Serve solo per quello. No, devi dire quello. No, no, più che altro, nel senso, magari comunque. Anche a me capita, per esempio, tendi a volte, perché devi fare un incarico palloso, hai qualcosa da fare che insomma non ti va di fare, tendi a procrastinare. Questo penso che sarà capitato a voi almeno una volta. Beh, poi può essere che magari siete tipi molto virtuosi, staccati, stacanovisti, e non capita. Però a me, per esempio, è capitato pure qualche volta. Certo, ovviamente non cose molto critiche che poi potrebbero mettermi nei guai sia col lavoro, eccetera. Magari da ragazzetto da ragazzetto studente, anche universitario, mi è capitato di non farcela per qualche sessione a prendermi la materia, perché magari mi ero dedicato più tempo del dovuto allo svago, ecco. Però comunque, se una cosa davvero ti appassiona tanto, come ha detto Simone, tu il tempo lo trovi e automaticamente supera tutte le altre cose, le altre attività che potresti fare in quel momento. A meno che non le devi fare per forza. Cioè, se tu c'hai comunque una vita, c'hai da lavorare, c'hai comunque da badare figli, c'hai da cucinare, c'hai da fare tutte le altre cazze, è ovvio che a meno che tu non voglia vivere nella merda, dovrai fare altre cose. Ovviamente, ovviamente. Tra tutte queste cose, sì, quando c'hai, quando sì, c'hai però, comunque però Marco, il guarda, tempo, noi vabbè, sì, siamo persone magari coscienziose, eccetera, però credimi, c'è gente che poi vive nella merda, sì, esatto, per carità. Sì, sì, ovviamente. Si assuefa, io quando dico tempi morti, esatto, non è che dico c'è, cioè, una cosa brutta. Tu quando c'hai un. Non è una questione di brutto, secondo me non è così in senso assoluto. Cioè, ho capito quello che vuoi dire e va bene, cioè, è un principio. Io ti dico che secondo me in massimo poi cioè, non agisce come vuole. Allora, se uno vuole perdere la vista con i videogiochi, può videogiocare anche se ho 18 ore al giorno. Noi dobbiamo suddividere la nostra esistenza tra quello che siamo costretti a fare, quindi il lavoro, il 90% è tutto delle cose, che è tutto quello che ovviamente per esempio io non vorrei aver bisogno di mangiare, perché cioè potrei farne a meno. Io no, mi piace, ti piace, è quella, e io mangio, però purtroppo siamo costretti, questo, cioè, non entriamo, non siamo i due psicanalisti, sì, senso, stiamo parlando di davvero, altro, a meno male, perché pensiamo di farti svoltare gratuitamente una cura, invece esatto, niente. No, il disco, vabbè, finisci prima, dai. Finisci poi dopo. No, io quello che altro devo dire. Quindi, quando uno deve giocare, è a tempo morto, cioè a tempo di dedicargli, tempo morto. Qui, allora, quando è, cioè, nel senso, quando tu ti sei emancipato, che tipo di rapporto hai avuto con i videogiochi? Questo è il senso del nucleo del. Che quando posso ci gioco. Ci giochi. Cioè, sempre, fine, cioè sempre, io appena posso, esatto, mi butto lì. Se non ho altre cose da fare. Quindi tu sei c'ho tempi morti. C'ho un sacco di tempi morti. Non solo, ma quando non ce ne ho, me ne creo perché magari così sto più tranquillo. Vabbè, allora, ma dico io. Allora, intanto io sono uno di quelli che ci ha avuto veramente tante vite, no? Nel senso che è morto 12 volte, come quindi. Il dottor Hu. Nel senso che ho veramente vissuto capitoli estremamente differenti della mia vita, molto radicalmente diversi uno dall'altro, soprattutto nel periodo in cui stiamo trattando adesso, quindi praticamente quando c'è questa fase di maturità, di emancipazione, perché quello era il periodo dell'ormone ingaloppito. E pensate che questo non so che sarà difficile comprenderlo, ma io pesavo 75 kg, avevo i capelli lunghi e biondi anche, che mi tingevo, e portavo i pantaloni attillati ed ero un figo della Madonna e trombavo, e quindi per me i videogiochi proprio non me ne poteva fregare di meno. E in realtà ci sono stati due momenti della mia vita che io mi sono distaccato dai videogiochi. Uno era questo. Beh, quando hai avuto l'incidente che ti ha ridotto come se esatto. Questo è il secondo, secondo episodio, quello deve ancora avvenire poi. Scusa, e, prego. No, nel senso, uno era questo, chiaramente quello dell'ormone incavallito, e l'altro è stato proprio quando io, nel mio matrimonio precedente, diciamo così, ovviamente c'erano dei problemi da affrontare che erano chiaramente superiori al discorso del giocare, e anche esigenze, perché poi, come ha detto anche Luigi prima, poi alla fine il videogioco diventava un lusso, non dal punto di vista tanto temporale quanto proprio dal punto di vista anche economico, perché comunque era difficile riuscire a trovare quei soldi da investire rispetto a quella cosa che ti piacerebbe fare. Ciò nonostante, comunque, c'è stato un momento in cui a volte ritornavano, diciamo, questo desiderio di videogiocare, soprattutto, ecco, quando il videogioco ha cominciato a diventare anche altro oltre al videogioco, quindi come storie interattive e via dicendo. E ho giocato molto di meno rispetto a quello che giocavo prima, però ho giocato molto più intensamente. Questo è sicuramente un dato di fatto. Certo, a differenza di quello che dice Marco, io penso che un hobby, a prescindere da quale questo sia, e il gioco comunque in generale come forma di interazione e di creatività, secondo me non è mai un tempo morto, nel senso che ancora, ma io non ho detto che il gioco è il tempo morto, riempi i tempi che altrimenti sei sbagliato morti. Come definizione, no. Non so tempi morti, è il tempo che hai a disposizione. Allora, visto che non ti piace morto. Questo termine, perché tu sei morto 12 volte, allora, esatto, i tempi in cui non si fanno altre cose, va bene, sei contento? Beh, è diverso, no, è il tempo morto, non è tempo morto, il tempo morto significa il tempo che non c'hai un cazzo da fa. Certo, perché... non è il tempo in cui non c'è un cazzo da fare, è il tempo che tu dedichi a una cosa. Sì, ma capito, ma se hai altre cose da fare. Ma le altre cose da fare prioritarie, allora, cioè, una cosa che è prioritaria è del lavorare, perché sennò non mangi. Altre cose e altre attività in realtà sono una scelta di priorità. Io per esempio stasera, invece di starmene a casa a fare cose che magari avremmo dovuto programmare con mia moglie o roba del genere, mi sono venuto qua a parlare dei videogiochi. È una mia scelta, non è un tempo morto. È una cazzata, no? È questo che voglio dire. Poi dopo ognuno li chiama come cazzo gli pare, cioè, però questo è un dato di fatto, insomma, dai, no, dai, basta. Vabbè, tempo morto, per me è un tempo morto, tempo. Cioè, io allora, lo definisco così. Vai. Io non sono neanche d'accordo, non sono d'accordo con Marco, nel senso che non lo reputo, no, un tempo morto, neanche lo sminuisco come una perdita di tempo, fondamentalmente. No, non è una perdita per di me, tempo. Per me, diciamo, quando gioco comunque ha un valore... perché in qualche maniera mi rilasso, penso ad altro, ho la possibilità appunto di fare anche un po' magari di escapismo dalle difficoltà quotidiane, però devo dire che comunque c'è una differenza. Beh, non sto parlando proprio per l'ultimo anno, diciamo l'ultimo paio d'anni in cui ho avuto la fortuna anche di fare comunque un lavoro che si avvicina, o un'attività che si avvicina comunque anche ai videogiochi. Però prima, quando 3-4 anni fa lavoravo solamente come analista programmatore, praticamente non arrivavo quasi completamente a giocare durante la settimana, per esempio, me lo ricordo perfettamente, perché magari mi riducevo così stanco che, essendo anche un'attività che richiede anche un minimo di il videogioco è fondamentalmente interazione, quindi comunque l'attenzione la devi porre, devi avere anche un minimo di riflessi a seconda anche del tipo di gioco. Io ero così stanco che preferivo, magari, se proprio non volevo cadere subito, collassare subito sul letto, ma almeno vedermi qualcosa in televisione, che è una cosa un po' più passiva, no? Questa cosa in realtà, diciamo, e quindi mi riservavo fondamentalmente lo spazio proprio per giocare, magari nel fine settimana, in cui magari ti sbrigavi se no due cosette, però poi avevi almeno una mezza giornata per poter giocare. Però, diciamo, poi tutto il resto era fondamentalmente off limits tutti gli altri giorni della settimana. Perché non avevi tempi morti? No, più che altro perché avevo altre priorità. Certo. Perché ho cercato di rimanere con la testa sulle spalle, che almeno. Purtroppo riempiono, riempiono. Allora, avete tempi morti, sì. Quello è il problema. Cambiando ovviamente, cioè, col fatto che noi stiamo maturando, no? Anzi, siamo. No, okay. Assolutamente no. Sì. No. Sto devolvendo. Sì. Ma è certo. Comunque c'è un cambiamento. Ci sono sempre puzzle game, che fra un po'. C'è un cambiamento comunque in atto, con il fatto discorso dei puzzle game. In realtà, Marco, tu mi hai dato anche il là. Fondamentalmente, quello che voglio dire è introduco questo punto che si chiama "non è più roba mia". ossia, come ho detto appunto, con l'età noi cambiamo i nostri interessi, cambiamo i nostri gusti e ovviamente cambia anche, volendo, l'approccio al nostro gioco e relativi generi che magari un tempo prima giocavamo, ora non ci interessano più, o magari sappiamo anche a priori, pure per il discorso del tempo, che per noi sarebbe inutile cominciarli perché magari non riusciremo mai a portarli a termine. Quindi si tratta ormai di, secondo voi, di stare sempre al passo con i tempi e seguire le ultime tendenze del momento, oppure voi riuscite comunque, da quando avete cominciato a giocare con le stesse cose? È cambiato qualcosa? Luigi? Sì, allora... Spero di non averti messo tutto in difficoltà stasera. No, no, tutte. No, lui, come diceva il primo, deve essere automaticamente in difficoltà, purtroppo. Allora, utilizzo me ovviamente come tutta la mia sì, carriera videoludica fino ad oggi per avere per darti una risposta. No, ma è proprio questo, diciamo, scopo della puntata, fondamentalmente raccontarci attraverso questo, insomma, vedere cosa ne emerge. Dunque, io penso questo, che per innanzitutto ci sono alcune esperienze videoludiche che ciascuno ha effettuato, ha fatto e ha affrontato, che si sono stampate nella memoria e che restano lì in maniera, diciamo, quasi inscindibile poi della nostra crescita evolutiva dal punto di vista videoludico. Questo che vuol dire? Vuol dire che crescendo fondamentalmente possono cambiare alcuni parametri di alcuni aspetti videoludici, però restiamo attaccati alla nostra, a quello che è stato ciò che ci ha sconvolto, ad esempio un tempo. Io penso a quando giocai in Metal Gear Solid la prima volta, mi ricordo giocai il primo, ma già dopo che uscì, diverso tempo dopo, quindi poteva essere il 2001 più o meno, poi giocai subito Sons of Liberty e poi Snake Eater. Per me Snake Eater fu l'apice dei Metal Gear come coinvolgimento, come storia, eccetera, e inevitabilmente cosa è accaduto? È accaduto che crescendo la mente si fa più sintetizzante, quindi accade che qualsiasi esperienza si possa avvicinare a quella, fondamentalmente io già l'ho vissuta, quindi pur in questo processo tecnologico evolutivo che è il videogioco sempre in atto, noi ci creiamo delle nostalgie, secondo me, a livello di memoria, così come se le creavano i nostri nonni, i nostri papà, eccetera, crescendo senza aver avuto a che fare col videogioco. Cioè alcune esperienze si sono segnate fortemente in noi, che siano virtuali, quindi videoludiche o meno, e tali rimangono. Quindi cosa succede? Succede che anche andando avanti col tempo non ci attrae più magari l'innovazione videoludica, il comparto grafico, dirsi voglia, quello sonoro, eccetera, perché noi comunque abbiamo goduto di un momento particolare della nostra storia videoludica che si è intriso in noi, e la mente, il nostro organismo, non è fatto per durare fisiologicamente a un certo livello cognitivo sempre uguale. Quindi, diventando più sintetici, noi viviamo sia di ricordi a livello nostalgico, ossia di esperienze che possono richiamare quelle che sono state i capisaldi delle nostre appunto esperienze formative passate, più grandi. Quindi per risponderti in maniera molto più... Infatti scusa, ti posso interrompere solo un attimo? Sì. Io ho fatto caso a questa cosa qui, personalmente, questo è un aspetto strettamente personale, che a 40 anni, a 41 anni, mi sorprendo magari a trovare affascinante un certo minimalismo che però è intriso di una certa poetica, tipo in To the Moon, sì, oppure Journey. Sì. Cose che comunque sono distaccate dal videogioco tradizionale, che alla fine, nel momento in cui tu sei dentro To the Moon, tutto il resto è un boom boom boom, è rumore quasi. Ma perché? Perché se ci fai caso, un ragazzino che adesso comprate Last of Us, lo so che lo comprate tutti Last of Us, che cazzo, però per dire, più o meno sappiamo cosa aspettarci, sì, è vero, perché chissà quante avventure abbiamo fatto in questi 3-4 anni passati che ci hanno formato. Abbiamo visto anche The Road, magari il film quello con Viggo Mortensen, il romanzo di McCarthy, cioè quindi la vera post nucleare, gli zombie, gli infetti. Però magari per un ragazzino di 14-15 anni queste sono delle realtà su cui si baserà per ricreare le sue poi esperienze e memorie videoludiche future, e quindi lui vedrà questo come se fosse una novità. Quindi la sua mente non è sintetica come la nostra o come la tua, il minimalismo eccetera, ma vorrà invece avere una ricchezza di particolari, vorrà godersi tutte le sfumature, perché la sua mente non ce l'ha, le deve assorbire. Ecco quindi che secondo me il discorso non è più roba mia, per richiamare il titolo, è legato inscindibilmente al fatto che lo è stata roba mia. Ecco perché adesso... Infatti non lo è più, vero? Cioè non lo è più perché lo è già stata, quindi si è trasformata in qualcosa di differente che la può richiamare magari, ma non è che c'è un distacco, c'è una memoria dietro. Quindi vorrei che fosse chiaro che non c'è un misunderstanding, il fatto non voglio dire che mi sono allontanato, non la riconosco più, anzi è talmente dentro di me che adesso posso sintetizzarla e guardare oltre. Se non ci fosse questo processo evolutivo all'interno dell'essere umano sarebbe, beh, immaginate, mostruoso il bisogno di dover fare sempre le stesse esperienze o a quell'intensità, come se non arrivassimo mai ad un pensiero sintetico. Sarebbe da, i nostri neuroni scoppierebbero probabilmente. Stefano, allora io, vabbè, dopo tutto quello che ha detto Luigi, dirò la mia esperienza direttamente. Sì, infatti secondo me lui ha riassunto il discorso. Cioè, scusa, ti ho parlato sopra, però in realtà ti stavo dicendo, cioè nel senso, io penso che quello che ha detto Luigi fondamentalmente è il succo del, sì. E quindi a noi non rimane altro che esprimere poi le nostre considerazioni a livello di esperienze personali, chiaramente tranne Marco che dovrà dire l'opposto. E allora io abbasserò il livello, io in questo momento ho dei tempi morti che devo riempire in qualche modo, esatto. Datemi un videogioco. Parlando di esperienza terra a terra, quindi proprio rispondendo direttamente alla domanda senza troppi fronzoli, credo. Ovvero sì, effettivamente il mio approccio con i generi soprattutto è cambiato, e sono molto più, cioè ho molte più richieste da parte del videogioco, perché sempre meno videogiochi riescono a colpirmi, a coinvolgermi come magari facevano un tempo. Quello che mi colpisce di più sicuramente è l'esempio con i JRPG che adoravo e che continuo ad apprezzare, ma che non mi prendono. In generale i giochi di ruolo, tranne i giochi come possono essere un World of Warcraft a suo tempo, quello che è stato, e adesso non mi coinvolgono più come prima, cioè ci gioco un po' e poi dopo un po' li mollo. Quindi sui generi magari mi sono focalizzato più in giochi che possono essere come dire, tra virgolette, messi da parte per un periodo medio breve, diciamo, e poi ripresi senza troppi problemi, tra virgolette, tranne casi eccezionali. Ma ecco, il mio esempio principale è quello con i giochi di ruolo giapponesi, anche quelli occidentali non mi prendono più. Tra cui Mass Effect, ovviamente. E Dragon Age. Dragon Age non ci porta soldi. Che ho iniziato con enormi aspettative e che poi non è che mi ha deluso, ma mi ha c'era troppo hype, che poi ti ha fatto creare dei tempi morti e... ma non lo so, il punto è che, ma anche prendendo i giochi di ruolo storici, un Baldur's Gate o un Final Fantasy 7, un Final Fantasy 6, comunque è un po' tutta l'iter, l'ambaradan, non lo so, un po' mi pesa da un certo punto di vista e mi dispiace, perché ricordo delle esperienze molto divertenti, molto... Cioè ti pesa giocare ai JRPG così come erano concepiti allora? Sì, cioè, no, ma anche quelli attuali. Cioè ti pesa dal punto di vista del gameplay del genere? Oppure ti pesa solo perché non riesci, sai che non potrai fare quelle 50-60 ore o perché non sei più buono? Darti un'idea, dico che hai perso la vista nel frattempo. No, perché per darti un'idea, ci sono per esempio adesso anche RPG che riescono a durare anche 30-35 ore magari facendo solo le cose principali della main quest, e tu dici magari non voglio giocare a quelle perché già 35 ore sono troppe, però poi alla fine ti ritrovi che so con Far Cry 3 ad averci speso lo stesso ammontare di tempo. Esatto, esatto. Faccio esempio di Far Cry 3, faccio l'esempio di Red Dead Redemption, mm-hmm. a cui ho giocato per tantissime ore, però erano un po' diversi come genere, un genere che appunto qui prima forse non avrei dedicato tutto questo tempo. JRPG non avrei problemi neanche adesso, chiaramente, a dilazionare in più tempo le 60 ore, per dire, lo farei molto volentieri, però non, niente di quei giochi mi spinge a farlo. Stefano, probabilmente noi stiamo ridendo, ma non per te, perché rideremo più fragorosamente. No, stiamo ridendo per altre cose. Perché mi è venuta in mente una scena di Marco che galoppava sto cazzo di cavallo. Ma piottavo, ma dove andare lì? Vai. Sto cavallo sul burone giù. Si è fatto 400 metri e ci ha schiacciato giù. È bellissimo. Un grandissimo gioco. Per ridere, guarda, ogni tanto delle scene fantastiche. Sì, perché c'erano dei punti ciechi dove non si vedeva c'era il burone. No, era bellissimo da quel punto di vista. Comunque, quindi ecco, altri tipi di giochi, nuovi tipi di giochi, tra virgolette, perché poi i generi, giri sono sempre quelli. Mio altro grande problema, oltre a quello del fatto che il 3D non è vero 3D e queste cose qui, vabbè, prima o poi ti combatteranno addosso. Sì, quando soltanto mi combatteranno pazzesco. Addosso, io finalmente mi sentirò un uomo realizzato. Comunque, e quindi sì, il modo è cambiato perché non lo so. Ecco, non ho problemi a giocare con i vecchi giochi da un punto di vista del gameplay, né a sottostare, diciamo, alle loro regole ferre. Allo stesso tempo però ho problemi proprio con dei generi che ho adorato e che mi dispiace non giocare più, perché so benissimo che sarebbe cioè che li abbandonerei oppure ci giocherei per inerzia, non mi piace più di tanto. E poi sì, riguardo ad esempio la dimestichezza con le innovazioni tecnologiche eccetera, idem, ho trovato piacevole giocare a certi punti e clicca nel cellulare senza grossi problemi, chiaramente creati. Scusa, doc. Però questo è sì. C'è un già un topic più avanti, quindi magari basta. Stai andando fuori tema. Sto leggendo altro. Qui dice dimestichezza con l'ultima innovazione di gameplay o tecnologia. Ah, ok, va bene. Quindi stai pure a copiare, non so, stai anche a copiare, stai a dire cose di altri. Beh, bravo. Seguo quello che c'è scritto. Scusa, certo. Lo segui proprio alla lettera. Sempre prendervela con me perché sono piccolo e sardo. Scusa. Esatto. E perché ti combattono addosso? No, come? No, scusate, ma io mi sento piuttosto male a scatti spesso. E perché ti combattono addosso, dico? Perché non mi combattono più addosso. No, è quello, non mi combattono, addosso. No, continuano a combattermi addosso e quindi mi sento meno coinvolto, quindi mi sento meno ho meno dipendenza, cioè quel senso di, come diceva Luigi, devo tornare a casa perché devo giocare. Voglio giocare. Devo e voglio a seconda dei casi. Non lo sento più per la maggior parte dei giochi. Sì, cioè, sono giochi che mi coinvolgono molto, qui gioco molto volentieri, però non mi rimangono in testa in altri momenti, ecco. O almeno per ora no. Beh, anche perché sennò saresti un caso clinico, io direi no, che... Cosa sta a fare? Mentre giochi con la macchinetta del vapore che ti dà tanti soldi, cominci a pensare a Skyrim, queste cose qui, e lanci il fus da Rotanzi. Immagina che dai di Biggio, che è tra l'altro molto steampunk, tra l'altro. Sì, vabbè, l'ha detto lui. Più cyberpunk che steampunk. Fanculo, punk, io dico quello che cazzo mi pare, capito? No, ecco, avrei molto più piacere magari quando sto facendo qualcosa di estremamente noioso che però devo fare, pensare al videogioco e dire potrei fare questo, potrei fare quello, insomma cercare di evadere un po' dalla realtà nella mia mente. No, io invece vado spesso, per cui io tranquillamente penso ai giochi in qualsiasi momento. Anche in questo momento mi sto risolvendo un quadro di Candy Crush, per dire, nella mia mente, però è dentro. O flow. Free flow. No, io non ci riesco. Forse l'unico che un po' mi ha fatto quell'effetto è stato Far Cry 3. Vabbè, ma non parliamo di videogiochi, dai, non parliamo di videogiochi. No, io nel mio piccolo non ho cambiato tanto i gusti, cioè ho un po' sfanculato gli arcade, perché comunque alla fine, all'inizio c'erano solo gli arcade, quindi quando negli anni 80 c'era un arcade ovunque, tu andavi in accesso, ti tiravi sulla tazza, c'era un arcade. Mi hanno un po' rotto le balle, quindi poi adesso quando si è passato dal 3D ho più, diciamo, sì ha voglia. Sì. Ecco, no, perché ok, vi ho perso per ho più Ah, ok. Ma invece ci siete perfettamente. Ho più appeal con i videogiochi in 3D, per cui, ma è proprio una questione di gusti. Forse cambiano un pochino i gusti, diventiamo un po' più esigenti o anche un po' meno esigenti, dipende dalla persona. Però l'unica cosa che magari mi ricordo è che stavo scimmia al padre illegittimo di Mass Effect. No, certo, il padre illegittimo di Mass Effect. Dopo aver giocato quello, voglio dire. Ma quello ha dato il via a tutto, eh. Quello ha ispirato il creatore di Mass Effect. No, io per esempio avevo la scimmia di Pro Evolution. Io ho comprato la PlayStation 2 per Pro Evolution e lo compravo sempre il day one, sempre il mio ogni anno lo compravo. Poi a un certo punto ha cominciato a diventare una merda e non l'ho comprato più, ma non perché sono cambiato io, che è cambiato proprio, diventare una merda, quindi. Però non sei passato a FIFA? Sono passato a FIFA, ah, sì. Come no, sono passato a FIFA, purtroppo sì, ma serve un gioco da pallone. Però non c'hai comprato le console con FIFA? No, cioè quello che ti ha fatto fa PES non ti ha fatto fa FIFA. No, perché poi l'hanno fatto per PC, per cui sti cazzi. Permetti? Non è la stessa cosa. No, la stessa cosa. Adesso, negli ultimi 2-3 anni. Cazzo al cazzo. E quando è uscita la PlayStation 3, io andavo ancora su PlayStation 2 con PES. Poi è uscito PES per. Che tristezza. Per FIFA. Per PC. Che quale? È uscito anche PES per FIFA, volendo. Se vogliamo guardare. FIFA è uscito per PES. No, PES è uscito. E quindi mi sono sempre comunque attaccato ai giochi di calcio. Negli ultimi anni mi hanno un po' rotto, però perché. È proprio il gameplay che non mi salta più. Però io comunque ci insisto, quindi alla fine. Non ci ho avuto nel corso degli anni qualche cosa che mi ha stufato. Mi rigioco pure giochi vecchi di tanto in tanto, che riesumo, tipo l'ultimo KOTOR che mi sono giocato mese scorso. Di tanto in tanto caccio fuori un Mafia, che ne so, però non c'ho ancora. Addirittura Mafia. Adesso smetterò. Non è un problema dei tempi morti, eh. Cioè, è un problema di morte proprio. Morte, perché esatto. I morti non giocano. Sì, vabbè. È finito? Sì, possiamo andare avanti. Ok, allora, per quanto riguarda me invece, ma a parte che i miei gusti sono stati sempre avventure grafiche e giochi di ruolo giapponesi. Che triste. Sarebbe figo avere un'avventura grafica giapponese. Ci stanno. Ci sono anche le visual novel. Adesso sono inventati le visual novel, sono delle porcate quasi assurde. Però chiaramente Biggio se le gioca tutte. Sì. Anche quelle pizzozze. Io sì, sì. Soprattutto Monkey Island. Penso a Monkey Island. Luigi, facci sentire Monkey Island. Siete pronti? Sì. No. Che brutta. La scimmia ornatrice del Borneo. Che brutta. Dire che a tre teste, ovviamente. Allora, e quindi fondamentalmente, vabbè, cioè nel senso. Una certa evoluzione o involuzione o cambiamento, ecco, come ho detto prima, cioè c'è stato probabilmente adesso, a parte magari alcuni capisaldi che gioco comunque, il problema è che io quando gioco un gioco e mi rende la scimmia per quel gioco, tipo come è stato per Fallout. Fallout. No, questa puntata lo stiamo dicendo un po' troppo, allora poi abbiamo preso un gettone, basta, noi ricordi, dici, poi di BioWare che ancora non abbiamo BioWare detto. E che è stato Fallout Fallout forse sì, che è quando io mi immergo scimmiescamente in questi giochi, poi dopo mi assorbono talmente tanto che in effetti che li trasponi nella realtà, no, ma mi consumano proprio, cioè nel senso molto di più di quanto mi consumavano quando mi prendeva la scimmia prima, cioè nel senso che mi assorbono talmente tanta energia che mi stancano, e quindi quando io ne esco un po' non voglio proprio saperne proprio più niente, perché mi sono talmente intriso del gioco che non ne voglio più sapere. Quindi ecco, quello che cambia è che cambiano sicuramente i gusti, cambiano anche le esigenze, cerchiamo magari, io perlomeno cerco magari, come ho detto prima, più poetica in una certa in un certo minimalismo, come tantissimi giochi indipendenti o avventure che stanno uscendo ultimamente, che sono abbastanza particolari, e allo stesso tempo forse, ecco, cioè nel senso, non ho più l'energia di una volta, quindi è un po' difficile, insomma, riuscire a mantenere lo stesso tipo di videogiocare che avevi un tema, proprio perché ma pure filmicamente, pure televisivamente, pure dal punto di vista narrativo, anche nella lettura, nella letteratura, cambia tutto, cioè rispetto a quello che sono i gusti che avevamo prima, che erano magari più sbrilluccicanti e fluorescenti. Adesso invece magari andiamo a cercare un po' più la sostanza, diciamo così, rispetto a quella che è l'apparescenza. Senti che cazzo è, o la luccicanza. Me coglioni. Cioè, non manco la luccicanza, in realtà. La giocantezza. Quindi, insomma, in linea massima, insomma, io. Quello che traspare da sta cosa, che non è soltanto un cambiamento, cioè proprio è un invecchiamento. A me, sento, se io penso un po' a sta puntata, penso che sono vecchio. Questo è... No, ma tu lo sei, eh? Io sto quasi lì. Io lo penso anche senza la puntata. Cioè. Sì. No, però senza la puntata non ci facevo caso. Ma tranquillo, che io anche se l'altro giorno pensavo, mentre che stavo sul treno, pensavo, sai, mi mancano una trentina d'anni alla morte. Sì, che vuoi campare così tanto. Cioè, grazie a Dio dovresti campare anche un po' di più. Io avevo cominciato giocando praticamente tutti i generi, vuoi perché comunque mi piaceva provare un po' tutti, quindi anche la novità del caso, oppure sì, scusa, no, voglio precisare una cosa, ma anch'io ho giocato più o meno tutti per lo meno tutte quante le tipologie, e ancora oggi, perché come dicevamo, quando escerà Last of Us, che fai, non ci giochi, cioè nel senso, ci giochi, però è chiaro che c'è meno. Se io devo pensare ad andare a fare il multiplayer di Gears of War, adesso non lo faccio, cioè non mi viene proprio minimamente. Perché l'avessi fatto qualche tempo fa? Forse qualche tempo fa me ne sarei anche divertito, cioè, ma l'avrei preso pure come gioco, nel senso, non l'avrei preso come malattia. Impegni, cazzo, devo vincere ogni però adesso non c'avevo proprio la prontezza, capito? Ho detto, cioè, come entro mi hanno sbracato, cioè neanche se entrato già mi hanno sbracato 5 volte. Vabbè, ma un po' come a te, che quando giocavi a Uncharted dei multiplayer cercavi i ripari, dai. Vabbè, cioè, ma quella è la stessa cosa, ma quella non è tanto la prontezza, quella è l'addestramento, è l'abitudine che ci sta, ma perché non ce l'abbiamo non ci interessa averci, cioè, vai Giuseppe. Scusa. No, figurati, però dicevo, però poi col tempo ci sono stati dei generi che vuoi magari perché hanno cambiato alcune meccaniche o di gameplay o si sono evoluti troppo radicalmente, io ho smesso di giocarli. Per esempio io quando ero ragazzetto, che magari facevo anche le partite con gli amici, quelle diciamo fisiche di calcetto, però mi piaceva anche giocare ai giochi di calcio. A quei tempi, vabbè, i giochi di calcio erano molto diversi, quindi c'era per esempio Kickoff, Sensible Soccer, eccetera, erano molto più arcade. Ora, praticamente da quando c'è stato ormai l'accoppiata PES-FIFA, a me, io mi tengo alla larga da questo tipologia di giochi. E stessa cosa, per esempio, pure per i simulatori di volo. A me, per esempio, ai primi tempi, Interceptor, Falcon, c'è chi ha non esistono più i simulatori di volo. Sì, i simulatori di volo e anche un po' quelli di dogfighting, cioè anche fantascientifici come Wing Commander, X-Wing, eccetera. Mi piacciono i giochi di chick fighting, se le trovano oggi non ci giocherei più. La cosa che non dico, però e non toccherei tra parentesi neanche, anche se lo vedremo più avanti, per Amar Cord gli stessi. E poi un'altra tipologia che magari prima ci impazzivo anche in sala giochi, vuoi anche perché le conversioni non erano un granché ai tempi, erano i picchiaduro. Tuttora, diciamo, io sì, potete vedere qua sotto che c'ho un arcade stick per Super Street Fighter 4, ma io ormai raramente mi metto a giocare appunto a dopo aver scontato che ci fossero le telecamere qui nel caso sua a Super Street potrebbero Fighter. Esserci a nostra insaputa, però no, ma lui non sa che stiamo per pubblicare un video dell'ultima volta che siamo stati al Vigamus dove Marco e Giuseppe si sono ospitati, dove ovviamente chi cazzo è che può vincere. Mi spiego anche perché mi ha rotto, perché io non ci gioco mai, mi hanno sempre rotto le palle. Io l'unico gioco che riuscivo a finire con 500 mi dassi a cazzo, ma è quello, ma tu come devi cominciare così, spingi che sei a cazzo, poi dopo 10-15 partite cominci a prenderci la mano. Io l'unico gioco picchiaduro che riuscivo a finire con 500 lire era King of Fighters 99, sì, con tre personaggi che sapevo i loro punti deboli e i punti deboli degli avversari, li inculavo tutti. Qual era la squadra quella con Terry il ciccione Boga? Kim, poi c'era Leona oppure anche il nanetto con le, tipo Freddy Krueger, il migliore quello, sì, cazzo. Detto, e tutte queste tipologie raramente, addirittura proprio detto picchiatura, a meno che non c'è tipo la festa dove si fa magari qualche, si organizza qualche torneo, proprio non mi passa neanche per la testa di giocare a queste tipologie, insomma, di giochi. E poi comunque anche come gusti ormai mi piace di più appunto rivivere certe esperienze magari o minimaliste o comunque più significative, che possono appunto lasciarti dentro qualcosa che prima non avevi, ecco. Un po' come il facehugger di Alien. Sì. Ecco, stessa cosa. Chi manca? Allora, vado avanti. Sempre ricollegandoci a questo, l'altro punto si chiama, cominciamo a fare, ad essere ormai già veramente vecchi e parlare come vecchi, ho no? Ho già perso 8 esatto. anni di vita qui dentro, dall'inizio della puntata. Il punto si chiama: ai miei tempi i videogiochi erano più difficili. Questo è vero, è una cosa risaputa che la curva di difficoltà e diciamo la sfida si è ammorbidita notevolmente negli ultimi 15 anni e che ormai sopravvivono solo alcuni generi considerati hardcore tipo Dark Souls e Demon's Souls come giochi veramente duri che richiedono di padroneggiare davvero il gioco, ma ormai tutti i giochi fondamentalmente ti prendono per mano e addirittura non sanno manco quando lasciarla questa mano. Può essere che fino a metà gioco tu hai ancora dei tutorial che ti spiegano nuovi concetti o comunque fanno in maniera tale da guidarti nell'esperienza, no? Da non rendertela mai frustrante, addirittura da non darti neanche la possibilità di esplorare, di capire tu la strada qual è. No, te la dicono subito, c'è sempre un indicatore o comunque su schermo. Perché la gente non ha tempo da perdere oggi, Non ci sono molti tempi morti e allora deve essere subito immediata la cosa. E quindi la domanda è: voi siete rimasti vittima di questa filosofia? Cioè questo ammorbidimento vi ha cambiati a tal punto che ormai siete delle mammolette e non volete più riprendere i giochi di una volta proprio perché sapete che non ce la fareste più a giocarci, a terminarli magari? E secondo voi anche questo, quando magari nei giochi moderni comunque vi capita lo stesso di morire, la vostra pazienza e i vostri riflessi sono appunto cambiati così che vi fanno magari sbottare, imprecare e abbandonare il gioco? Luigi? Allora sì. Cioè, come le frasi più emblematiche, sì, che hanno definito il ruolo dei videogiochi dal punto di vista produttivo oggi è stata quella di Hideo Kojima, l'ideatore della saga di Metal Gear, il game designer del settore Metal Gear, che ha detto: i videogiochi sono servizi, quindi l'arte fondamentalmente videoludica è un discorso molto liquido, si può adattare a qualsiasi tipo di interpretazione. Quando ha detto questa cosa, i videogiochi sono servizi, uno che crea videogiochi dovrebbe essere una passione autoriale, però trasformata in un servizio al pubblico, mi ha fatto pensare che un tempo i videogiochi erano difficili perché non erano servizi al videogiocatore, erano fondamentalmente delle sfide nelle quali il game designer, quindi le meccaniche di gioco che stavano dietro al gioco, che lo presupponevano, dovevano cercare di vincere il videogiocatore a tutti i costi. quindi era una sfida lanciata al videogiocatore stesso, e questa sfida era fondamentalmente un game designer che diceva: adesso io con i miei algoritmi, con tutto, ti batto perché sono più forte, vedi se riesci a farlo tu. Quindi questa sfida era in primis la prima, il primo bisogno, che era assolutamente anarrativo. Non c'era la voglia di sapere come va a finire qualcosa, c'era vincere la sfida contro il game designer, contro il creatore del gioco, che molte volte era una persona soltanto che accorpava a sé tutte le funzioni espressive, da quella musicale a quella di codice e via cantando. Cosa è successo oggi? È successo che l'utenza si è allargata enormemente, quindi il servizio deve essere quanto più possibile ampio, anche per fidelizzare il cliente, perché una grande opera videoludica poi tende a riproporsi, a vedere sempre, e tu non puoi scoraggiare il videogiocatore alle prime armi, che non sa nemmeno dove mettere mani se si è imbattuto, se ha avuto la disgrazia di imbattersi nel tuo videogioco. Ecco quindi che viene ridefinito il videogioco come prodotto che è diventato al servizio dell'utente, quindi agevolarlo quanto più possibile a non staccarci, sì, a continuare a giocarlo, e soprattutto fidelizzarlo in modo che possa dire: ah, bello Uncharted, l'ho finito, questo è il tipo di gioco che piace a me. Perché? Perché c'è la difficoltà fondamentalmente di una pecora, e quindi è molto semplice andare avanti quando, sparando al cielo, colpisci il nemico in mezzo agli occhi. Quindi fondamentalmente è vero che i videogiochi erano più difficili ai nostri tempi, ma perché cambiava totalmente il rapporto tra il produttore del videogioco, il creatore del videogioco, e noi videogiocatori. Oggi ovviamente siamo su tutt'altro tipo di intenzione, su tutt'altro tipo di livello produttivo, e quindi si cerca una mediazione totale, al punto che il videogioco diventa davvero un prodotto che è una sfida, non tanto nel portarlo, nell'indurre il giocatore a portarlo al termine, ma nel dire: ah, abbiamo appagato a livello di marketing, di produzione, di pubblicità strategica e alla fine anche di qualità produttiva, quindi a livello produttivo, tutti i tipi di fasce comprese nel nostro target. Ecco quindi che ci si crea questa discrepanza, che è lo specchio della nuova definizione del videogioco che ha dato Hideo Kojima in maniera brillante, mi sembra efficace. Stefano. Beh, allora, anche qui ha detto abbastanza Luigi, quindi tu puoi parlare anche di altro volendo. Mi abbasserò di più. Vabbè, ma poi scusa, tu che hai fatto oggi al lavoro? Oh, no, lavoro, no, hai lavorato. Vabbè, ma non so poi scusare, altrimenti ce la vedo così. No, no, no, ma sì. No, non è, la mia non è un'accusa, anzi, è una scusa. È una scusa, non è una cosa. Sarà quello, Luigi. È una constatazione, Michele. Non è accusa, però se potessi stare zitto, dici, no, no, no, no, no, no. Vabbè, il fatto è che dici più o meno quello che penso io, dalla maniera marrone, che in maniera marrone, quindi che a me va benissimo, quindi appunto. Non aggiungo, aggiungo la mia esperienza personale. La tua esperienza da retrocastiano, dai. Ad esempio, ecco, quindi come intuirete, non ho grossi problemi con la difficoltà old school, anche se mi rendo conto che, come dire, le cose vanno contestualizzate. Faccio l'esempio, la settimana scorsa con un paio di amici abbiamo rifinito Final Fight. Il primo in assoluto, la versione arcade o quella tipo Super Nintendo che c'era solo due personaggi? No, anziché... no, con l'arcade, ah, okay. con Cody, Guy e Hagar, il sindaco della città, cosa che mi ha sempre fatto ridere, che il sindaco fosse un wrestler, sì, un wrestler poi vestito con dei pantaloni sorretti da una bretella diagonale, sì. Cioè un'unica bretella, aveva un'unica bretella, era fantastica. Eppure però nell'introduzione si vedeva, se ti ricordi, in camicia e tutto. Sì, era giacca e cravatta. Beh, sì. Poi quando gli rapiscono la figlia, lui giustamente si veste come un wrestler. Gli rapiscono la figlia, cioè mi hanno rapito la figlia, quindi mi metto una bretella. Sì, esatto. Senti, ma che personaggio eri tu? Io Hagar. Detto fatto. E lasciavo Cody e Guy a alternarsi agli altri, però no, no, grande amore per Hagar, un personaggio di notevole entità. Quindi ecco, io personalmente di spessore, non ho potrei dire, di spessore, diciamo. Hai detto che sei riuscito a finirlo, se ho capito bene, pure questa sì, volta. Sì, abbiamo finito, cioè... devo dire, ecco, con una notevole quantità di gettoni virtuali. No, diciamo, dico perché comunque la difficoltà c'era anche con alcuni boss tipo Rolento, quello delle granate, sì, per intenderci, oppure anche solo il secondo che era il tipo il samurai con le sì, due spade che in continuazione ti caricava o cercava di prendersi la spada per la katana per colpirti. Sì, esatto. Che poi anche lì è interessante vedere, ecco, facendo il paragone tra i giochi attuali e quelli del passato, adesso piccola parentesi del retrocastiera velocissimo, è interessante vedere come la maggior parte dei personaggi di Final Fight poi siano diventati giocatori utilizzabili in Street Fighter, sì. Però è divertente sfidarli pensando che al tempo per te erano solo dei boss e poi hai detto wow, posso utilizzare il boss, fantastico, era come usare in Mortal Kombat Trilogy usare Motaro, Kintaro, Shokan, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque detto ciò, è ovvio che appunto i giochi di adesso non possono essere fatti come quelli di allora. C'è appunto la questione della curva di apprendimento, c'è il fatto che la longevità dei giochi di allora era molto limitata, e tolti certi casi come poteva essere uno Zelda, che però infatti ricorreva al save game. Uh-huh. Al tempo non salvavi, giocavi tutto in un colpo, ti facevi le tue, non lo so, 2-3 ore a seconda del gioco. Però scusa, ti interrompo. Hai notato, Stefano, che paradossalmente al fatto che la durata era minore, però poi alla fine tu ci spendevi molte più ore provando e riprovando. Anche molti più soldi. Sì, sì, era per quello che cosa che ora, anche se magari il gioco ti dura di più e tu arrivi a un certo punto che lo fai una, due, alla terza volta magari ti secca, spegni, la chiudi lì e magari non lo riprendi più. Guarda, io c'ho un esempio che secondo me è un esempio che è una via di mezzo generazionalmente, che è Another World. Perché Another World, se tu lo vai a vedere su YouTube oggi, non durano un'oretta e mezza, sì, anche di meno. Cioè, sapendo a memoria tutti i vari passaggi, esatto. Quanto ci hai giocato a Another World? Io sono riuscito a finirlo, però sono riuscito a finirlo tipo dopo, nel senso, dopo una settimana che significava che da ragazzetto giocavo ogni giorno 24 ore praticamente. Esatto. E senza, perché a quei tempi ovviamente non c'erano, a malapena potevi sperare che ti usciva la soluzione testuale sulla rivista, quindi comunque non sapendo come andare avanti e facendo mille tentativi. Beh, ma è ovvio, perché avendo una longevità così breve dovevi dovevi dare una rigiocabilità e tornando al discorso di Another World sin dall'inizio non ti dava nessun suggerimento. Tu all'inizio, quando spuntavi e vedevi in lontananza il mostro che poi ti inseguiva, non è che lo capivi subito che dovevi tornare indietro per prendere la liana e superare il mostro. Dopo 20 anni, dopo 20 anni io non ho giocato, stavo aspettando l'occasione giusta. Adesso, se non l'hai giocato, guarda, te caccio. Ma io stavo aspettando l'occasione giusta, adesso non verrà più. Non potrò più dire questo, godere, cacciate per cortesia. Another World mi pare che comunque forse avevo visto un long play da poco, sì, anche io, ma mi pare che duri tipo un quarto d'ora in realtà. No, quarto d'ora no, non lo so, un quarto d'ora comunque dura pochissimo. Sì. Poi dipende anche dalla versione, perché la versione PC e Super Nintendo mi pare che c'era qualche scena, qualche livello in più, se ti ricordi. Adesso non me lo ricordo, sì. Comunque appunto dovevi sopperire in qualche maniera la prima vita del gioco. Nel caso di Another World era try and error, quindi tu chiaramente sapevi che il gioco durava, ma try and error spinto sin dalla prima schermata, cioè non come oggi che ti fai 3 ore, non hai visto quasi niente del gioco e ti ha guidato e praticamente ogni 3 secondi tu interrompi l'azione di gioco perché c'è qualcosa che ti sta automaticamente, ti togli il controllo e ti spiega come fare. Quando mi sento dire guarda il gioco diventa bello dopo le prime 6 ore, sì. Assassin's Creed 3, tipo Assassin's Creed 3 che dopo 3-4 ore di gioco ancora. Aspetta, quello più eclatante è stato Final Fantasy 13. Ah, 20 ore di tutorial, poi dopo però il gioco è fighissimo. Abbiamo finito il tutorial. No, abbiamo finito il tutorial, però tra l'altro siamo arrivati al momento della caccia. Lì poi siamo veramente rotti il cazzo. Ed è la prima volta che io dico come sono rotto il cazzo a giocare a Final Fantasy, E beh, vedi, probabilmente anche tu soffri del mio stesso problema con i Final Fantasy. Quali dei tanti? No, perché io, per esempio, c'era quel JRPG che era uscito su Xbox. Sì. Aiutami. Quelli sempre, insomma, da quelli fuoriusciti dalla Square. Giapponese. Lost Odyssey, se non era per il fatto che ci si è squagliata l'Xbox per la seconda volta, si è squagliata per colpa dello Lost Odyssey, tra l'altro, diciamo anche per colpa, sì, cioè io ve lo sarei strafinito. A parte quindi non è il genere che a me mi ha stufato, perché se un gioco come quello fatto bene, tra l'altro pure uno dei pochi, se forse uno degli unici JRPG doppiati in italiano, anche se c'era un brutto, c'è un doppiatore che io odio, ricordiamolo sempre, che lo troviamo dappertutto. Tutto troviamo su Skyrim, Pietro Ubaldi, la voce lì? Quello che parla con la voce un po' così, esatto, quello bambino. Che faceva anche nei cartoni animati tipo o anche le trasmissioni pre cartoni animati tipo GameBot, per intenderci, esatto sì, vabbè, quello è l'assistente direttore di doppiaggio, quindi è ovvio, lo dà sì. Ok, perfetto, stavi dicendo comunque sullo Stories, sì. Dicevo che nel senso non è il genere, capisci? È che ovviamente nel tentativo, come in Final Fantasy, trasformare il genere, hanno fatto una cagata che non finiva mai, perché oggettivamente tu parli, cioè nel senso, hanno messo quell'elemento della caccia che poi è un sistema per livellare anche il livello di esperienza e far crescere i personaggi, che è proprio da gioco del ruolo giapponese online, tra l'altro, che non c'entra un cazzo con i Final Fantasy, è proprio un modo perché sennò il gioco va fine a quel momento più o meno. Ci giocavamo. Un bel binarione, però sì. Però ci poteva stare, dai, tutto sommato. Comunque, dicevi, Stefano, prima che ti avessimo interrotto tutta la parentesi, l'ho quasi dimenticato. Sì. Allora, aspetta. No, il problema era della longevità, sì, e della difficoltà associata. Sì. Esatto, la difficoltà veniva superita col. No, bugia, la longevità veniva superita con la difficoltà. Ah, a proposito della longevità, mi viene in mente Another World. Non so se voi ricordate. Spoiler. Comunque lui muore alla fine, eh? Insieme alla bambina. Muore la bambina. No, che se la portano via gli alieni. No, ma muore per davvero lui. Lui non muore, lui è mezzo acciaccato, se il suo amico se lo prende e se lo porta sul drago volante. E voi lo sapete che ci sta il seguito dall'altro Another World, il seguito che tutti hanno voluto dimenticare. Cercatelo su Wikipedia. Another World? No, cercatelo su Wikipedia perché... One more world. Merda proprio. Cercatelo. Oh, ma comunque a questo punto, visto che stiamo facendo la parentesi a Marcord di questi giochi... Sì, perché siamo vecchi. Esatto. C'è la vecchiezza. Tu dici che... Ma anche lo stesso... L'altro gioco della Delphine, anche lo stesso Flashback non era facile finirlo. Sono gli stessi produttori. Esatto. Ma anche se non so se vi ricordate, per PS1 c'era Heart of Darkness, che è sempre uguale, sempre lo stesso doppio, mi ricordo ancora, doppio CD acquistato per Play 1, un regalo di Natale forse, non mi ricordo, lo cominciai ma non finì, lo stesso principio anche lì, grande gioco, difficilissimo anche quello, è l'autore, ore, è sempre ore, lui, ore il gioco comunque. Però senza problemi ho giocato a quello per ore senza mettermi enormi paletti, ecco. Magari adesso quei giocatori non è possibile farlo per una questione di lunghezza, non è che puoi a ogni checkpoint morire e ricominciare dal primo livello. Secondo me, come aveva detto Luigi, è solo questione di lunghezza. È cambiato anche proprio l'obiettivo, il target, non è più sfidare il giocatore, è fargli fino alla fine, fargli provare tutta l'esperienza. Cioè, devono assicurarti che tu comunque fino alla fine un gioco tu ci arrivi bene o male, e quindi si incazzano pure. Esatto. No, mentre invece quanti giochi, a parte gli scherzi, anche visto che stiamo parlando della nostra infanzia videoludica, anche Luigi, dato che sto punto è andato a puttane, senti, vieni anche tu, sì. Tranquillo, nella nostra infanzia videoludica quanti giochi comunque non abbiamo a quei tempi finito e magari ora o siamo riusciti a completarli, addirittura ce ne siamo fregati, abbiamo visto attraverso ormai l'internet, YouTube, come andava a finire, okay. solo per tu considera l'epoca dell'Amiga, quanti dischetti ci avevi? Boh, diciamo, non fammo gli stronzi, giù, sì. No, io compravo tutti i giochi originali perché è una stronzata, no? Ne sono passati 25 anni. Avevo centinaia e centinaia. Esatto, quanti e li riciclavo pure. E quanti giochi hai finito? Perché ovviamente quando c'avevi centinaia di giochi, cioè li mettevi, infilavi, morivi, ne mettevi un altro, cioè. A meno che fino a che non arrivava il gioco quello figo, quello figo lo finivi. Però c'è da dire che no, riuscivi anche a finirli perché per quella tipologia di giochi c'avevi a volte, più delle volte, anche i trainer, ti ricordo. Anche le vite finite automaticamente all'avvio che ti permettevano magari di barare. No, io ricordo il mio grande come dire, il mio grande problema è che io non ho mai finito Alex Kidd in Miracle World, né e questo quando... ti ha traumatizzato. Arex su Kiddo, tu dici non l'hai mai finito nel Sega Master System, ha senso perché era difficile, così via. Ma io poi, anni dopo, ci ho rigiocato emulato nel DS e non l'ho finito guarda. Neanche facendo salva e carica come il peggiore dei newbie. Cioè, questo è un trauma che mi porto dietro, cioè, da anni. Guarda, per è un'onta. Uno dei tanti. Eppure, nonostante questo, ci sono giochi che comunque... cioè, la sfida comunque mi appassiona lo stesso. Per darti un esempio stupido. Per esempio, io stavo provando dei codici che mi aveva dato Nintendo della Virtual Console, questa nuovamente del Wii U, e per esempio F-Zero, anche lo stesso Super Metroid, per quanto difficilissimi, ma mi stanno prendendo di più di un gioco attuale. Beh, quello è nonostante ogni 2-3 secondi mi danno praticamente calci sulle gengive, fondamentalmente, perché muoio, sì, muoio, esco di strada, mi superano tutti subito su F-Zero, no? No, beh, scusa, ricordo bene, ma scusa, Stefano, sì. Sai cosa sto pensando? Okay. Faccio una domanda, sì. Peppe. Sì, sì. Ma quanto il fattore temporale, vale a dire la nostra capacità, il piacere, il godere del fatto che stiamo giocando con una perla del passato, ti possa portare, ti porta, diciamo, ad una strana sensazione di godimento del gioco, perché sembra quasi che tu ti sei riconnesso col passato e quindi lo stai recuperando, o stai recuperando, diciamo, un periodo di innocenza, e questo ti sprona quindi a giocare, non solo perché il gioco è bello in sé, ma proprio perché sembra quasi che torni sui tuoi passi per fare una sorta di pulizia nel tempo, retroattiva. Ma pulizia adesso di che qualità, in che modo, è un eufemismo, però lascio a te farti capire cosa volevo intendere soltanto. No, Secondo te, quanto gioca questo aspetto qui, oltre all'aspetto oggettivo del gioco in sé bello e le sue dinamiche? Secondo me questo qua è predominante. Predominante sia per i giochi che effettivamente sono tuttora invecchiati bene e hanno comunque un valore pari a quello dell'uscita, sia per quelli che magari alla fine tu te li ricordavi meglio, poi ormai sono delle fetecchie, ma tu comunque c'hai vivo quel ricordo. Secondo me è tutto, ed è quello che appunto ci differenzia. Mi dispiace ora fare un po' di classismo, differenzia la nostra generazione da quella odierna. Sì. Da quella degli ultimi ragazzi, quella del bambino che dice il passato è passato, il presente c'è. Che sono il presente, appunto. Sì, ti presente quando si rivede un vecchio amante, sì, per esempio, e ti batte il cuore, tu dici eppure ci siamo lasciati, eppure dai, è passato così tanto tempo. Questo succede perché effettivamente noi abbiamo lasciato pezzi di noi, secondo me, proprio della nostra vita, dentro quel videogioco. Sì. E quindi succede che si riattivano delle memorie come se fossimo di fronte a delle registrazioni che oserei dire che il videogioco diventa in questo caso l'unica vera macchina del tempo possibile. Sì, una macchina del tempo che addirittura il tempo te lo attualizza, te lo rende veramente odierno, quotidiano, presente, attuale. E questa è un'operazione che può fare male. Cioè io l'ho descritta, scusate se apro sta parentesi, sì. Quando ho giocato, quando ho tacciato le considerazioni finali di Snake Eater, Metal Gear Solid 3, perché mi aveva fatto male quel gioco? Male da un punto di vista ovviamente bello, sano, non male in sé dal punto di vista del dolore. Perché praticamente ogni volta che provavi a morire Metal Gear Solid 3, non so chi ne vuole giocare, sì, si può ricordare bene, entrava in un paradosso temporale, perché ovviamente trattando del passato di Metal Gear non poteva il personaggio principale morire, altrimenti si è creato un time paradox. Sì, no, ma poi il time paradox di fatto c'è, se ti ricordi, se provi a uccidere Ocelot, esatto, di Snake Eater 3, c'è proprio la... C'è il time paradox, esatto, c'è la scrittura del paradox. Ora, a me mi faceva, non so perché, io non so a che livello emotivo voi viviate i videogiochi, però quando... E mi immergevo in quella realtà che erano gli anni 60, quindi la guerra fredda, quindi l'esplosione atomica, le radiazioni, cioè tutta una sorta di realtà legata a quell'immaginario che ha una connotazione precisa storica, e pensavo che quella che stavo giocando era fondamentalmente qualcosa di passato, cioè non era più, non ci sarebbe stato più quel personaggio lì a quell'età, non ci sarebbe stata più quella struttura, perché poi l'ho fatta sarebbe stata distrutta, lo sapevo che in futuro sarebbe stata distrutta, sapevo come sarebbe andata a finire. Invece restava una cosa di tutto quello, cioè la natura. Snake Eater è immerso nella natura fondamentalmente, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi fondamentalmente, tutta natura, cioè, quindi alberi, boschi, zone boschive, acque, ruscelli eccetera. Quella natura è l'unica parte paradossalmente del gioco che resta sempre uguale a se stessa, perché fondamentalmente una pianta può morire, rinascere, eccetera, e tutto. Io mi sono sentito così legato a quell'aspetto boschivo, silvestre, quell'aspetto così vivo del videogioco, che ho provato una sorta di nostalgia mentre lo giocavo, anche se non l'avevo finito ancora per la prima volta, anche se dovevo ancora affrontare quindi tutta la realtà, io sentivo già una nostalgia, perché faceva parte sia dell'ambito passato, sia era permeato di questa natura che è sempiterna, che non sarebbe comunque rinnovata a se stessa. Quindi gli uomini passano, finiscono, vengono riassorbiti, tutti morti che si puoi fare, eccetera, dalla terra, mentre la natura rimane sempre se stessa, rimane lì. E quindi penso che dentro di noi, e qua concludo, quando giochiamo alle cose, ai retro gaming, quando ci diamo questa attività di retro gaming, una sorta di natura vegetale si risveglia in noi, cioè quella che è rimasta in noi e che si rinnova sempre verde ogni volta che il videogioco la riattiva, la riaccende, quando vi ci colleghiamo, parlo del gioco passato. Io so che Fallout, per usare un gioco che è tanto caro a Simone, ma anche a me, io ho adorato Fallout, non ci darà questo senso di nostalgia quando lo rigiocheremo fra 10 anni, come invece ce lo può dare un Another World, per intenderci. Oddio, sei sicuro di questa cosa? Cioè, nel senso, in generale sì. Cioè, se prendiamo giochi generazionalmente distanti, quindi una generazione come quella di Another World e precedenti con la generazione di Fallout, però Fallout Fallout, aspetta, Fallout 3, scusami, quale Fallout stai parlando? In particolare sul 3, stai ora... del 3, io 3, sto parlando del 3. Ah, il 3, ok, okay. Il 3 cioè comunque un gioco che in un modo o nell'altro si distacca dalla sua generazione. È un'esperienza a sé, perlomeno per come l'ho vissuta io, no? Perché se la vivi in maniera immersiva, è forse uno dei... Allora, in proporzione a Oblivion è molto più semplificato come meccanica di gioco, perché comunque era un gioco che era più indirizzato verso magari un pubblico meno skillato dal punto di vista del gioco di ruolo in sé, e questo non lo metto in discussione, ma la costruzione originale di un'ambientazione così verosimile, tutto sommato, perché era verosimile, ma non erano verosimili soltanto le rovine di Washington, no? Era verosimile il fatto che usavi i tappi come moneta, ad esempio, era verosimile il fatto che alcune cose che tu oggi non avresti tenuto in considerazione allora, in quel contesto, erano elementi preziosi. Era anche verosimile il fatto che loro utilizzavano una tecnologia che aveva un aspetto retro per noi, ma che in realtà era nel futuro, cioè paradossalmente, sì, capito? Cioè, vai, però, scusa, come si lega ai tuoi ricordi rispetto a Another World? Cioè, se considerando il videogioco, la nascita, il primo videogioco come il papà, facciamo così, il padre, quindi questa realtà, se vogliamo, che nella psicologia è radicata in noi, quindi a livello archetipico. Guarda, ti rispondo immediatamente, cioè, tu non ci vedi Fallout? Atari? Atari 2006, ecco, Atari 2006, Combat, cannoncino contro cannoncino, ecco, è la mia infanzia, mi ricorda i profumi, mi ricorda la mia casa. Questo cannoncino che spara non è differente a livello di succo da un Battlefield dei giorni nostri o da un altro gioco di guerra, che dir si voglia, però è legato ad un aspetto di ritorno alla tua infanzia, al sempreverde, alla fanciullezza, eccetera, che è radicato, è molto più vicino a livello archetipico il videogioco in te rispetto a un gioco più moderno. E questo perché? Perché noi ci abbiamo legato la nostra natura, quella più innocente, quella che poi torna sempre in noi e ci fa risentire vivi, bambini. Sì, sì, no, questo è invece, cioè, nel senso, su Combat c'è il profumo della mia stanza, no? C'è l'odore, sì, della mia casa, c'è il ricordo, il colore della stanza stessa, c'è la voce di mia madre, c'è soltanto tutta una serie di cose, no, che sono collegate a quello. Sì, paradossalmente, sì, però, e qui io continuo a voler difendere, ed è l'unico gioco con cui lo faccio, Fallout, perché Fallout secondo me si distacca perché in un certo modo è l'unico gioco che, pur essendo un tipo di gioco che io odio, perché io poi giochi in prima persona per me dovrebbero morire tutti, per quello che paradossalmente, se io fra 10 anni me lo rigioco, non mi fa rivivere l'odore della mia stanza o la voce di mia madre, ma mi fa vivere il sapore di Fallout, che è, cioè, quel sapore, sì, metallico, sì, radioattivo, cioè, io quando ci giocavo mi sentivo sporco, capisci? Cioè, nel senso, io non mi sentavo dentro le pozze dell'acqua, sennò diventavo radioattivo. Bravo! Cioè, nel senso, l'assurdità, il paradosso, qui veramente, cioè, se chi ci sente dice questo è... Ci ho messo 2 settimane per arrivare a River City, perché c'è tutta acqua, al secondo passalo posso entrare nel traffico per radioattivo, così, però io scoperto era da Way, io me lo sentivo addosso, cioè, sì, ma di Fallout, cioè, l'ho provato anch'io, non ci mancherebbe, però ti ha stupito più per una questione proprio tecnica di immersione, di spazio, di zona abitabile, se vogliamo, che questo videogioco così immenso, che non per un aspetto legato a tutto, che secondo me è quel capolavoro che ogni 10 anni, perché secondo me ogni decennio c'ha quella sua perla, che non vuol dire che è il gioco più bello. Sì, ci mancherebbe. Ma che più bello per te anche. Esatto, che per te è stata l'esperienza che... Cioè, che poi è stato quello... siamo stati fortunati, perché nel decennio c'è stato pure... Mass Effect, cioè, c'è stato tutto, insomma, stasera proprio sussurdoni. No, però, cioè, veramente, però capisco quello che vuole dire, Luigi. Io, però scusate un secondo, ragazzi. Nel tempo. Più schieriamo dietro e più diventiamo nostalgici, ovviamente. Beh, ma questo sì, l'abbiamo poi affrontato come discorso anche in altre situazioni, perché comunque è ovvio, no? Come dici te, l'animale temporale che è in noi. Ti sento pure qua. Esatto. Però allora io vorrei riportare un attimo, sì, perché... Infatti. Allora, dietrologia videoludica secondo me c'ha questa grande peculiarità che... Parte per la tangente. Può prendere delle direzioni infinite e fare discussioni. Il problema è che... a differenza di tanti altri podcast, noi vogliamo cercare sempre di dare un minimo di struttura. Magari una volta facciamo un podcast con solo 3 punti di discussione e andare a ruota libera, perché una volta sarebbe bello fare una puntata così, però cerchiamo di riprendere un attimo la scaletta, perché per esempio Stefano stava, io penso, sì, che Stefano, sì, a un certo, sì, punto abbiamo deciso che ha finito di parlare, insomma, no? Nel senso, quindi no, mi stavo ascoltando, quindi possiamo andare anche al punto successivo, anche se poi io non ho detto niente, però è uguale. Ah, vai. No, non so neanche che cazzo stavamo parlando, che non è più roba mia, no. Ah, la difficoltà, ma la difficoltà sicuramente è stata anche abbassata, consideriamo che ai tempi in cui giocavamo noi da bambini, quindi ovviamente a Tennis for Two, insomma, queste cose qua c'era. Beh, cazzo, no. Beh, più o meno, cioè, ovviamente erano tutti così i giochi, quindi sì, ce li facevamo andare bene, cioè nel senso che c'era quello, erano quelli, appassionati, erano infatti quello che ci appassionava, esatto, ci appassionava, e quindi quello che ci piaceva ce lo finivamo, ok? che poi magari non tutti avevano un finale, magari che poi la difficoltà, no? E noi tante volte ragioniamo sul fatto, ah, ma quanto erano difficili, in realtà era per forza, cioè la limitatezza tecnica era cannoncino contro cannoncino, no, so, o lo becchi o lo becchi il cannoncino, ma anche cioè, perché come aveva detto Luigi era il designer che faceva tutto e che l'aveva pensato con l'intento di sfidare il giocatore, esatto, mentre è ovvio che se ci fossero stati, lasciamo stare la grafica, quello che vogliamo, la tecnica, se ci fossero stati giochi semplici come quelli di oggi, a quell'età, a quei tempi, probabilmente non so come sarebbe venuta. Ma magari è venuta una riflessione stupida, secondo me, perché quello che è stata la fortuna dei videogiochi, la narrativa, è stata la distruzione dei videogiochi. Sì, esatto. Sotto altri aspetti l'ha affossato, come appunto la difficoltà, perché la storia deve compiersi, deve giungere al termine, per cui non si può interrompere. Esatto. Per esempio io ho giocato la Prepare to Die di Dark Souls, esatto, che è un gioco difficile, no, è difficilissimo, cioè tu appena muori, appena muori cammini, sono così. Che non sarebbe, cioè, lo puoi anche fare, però dopo un po' mi hai rotto le palle perché c'era il rispondere e ripetere le stesse cose. Dopo un po' ripeti le stesse cose, è quello che mi ha rotto le palle. Ci abbiamo passato l'infanzia. Cioè, è un po' come ma perché c'è solo quello. È come mettere un DVD nel registratore, andare al capitolo 3, a 4, 20 capitoli, 40 capitoli, vai al 35esimo capitolo e ti si blocca. Però non è che puoi dire va bene, allora prova a rifar partire il capitolo. No, te lo devi ricominciare da capo. No, capito. La seconda volta prendi il DVD, lo lanci dalla finestra. Scusate, ma voi allora vi ricordate pure, tanto per citare vecchi giochi, la difficoltà mostruosa di Ghosts and Goblins? Sì, assolutamente. C'era ancora installato. Cioè, anche quando morivi all'interno del primo livello, che era infinito, perché arrivava più o meno fino alla foresta col primo ciclope, ti ricordi, per prendere la chiave, però ripartivi quasi sempre dal cimitero. No, sì. Ricordi? No, perché io ci sono mai arrivato. Quindi. Sì, ma io ci sono arrivato 2 anni fa, ce l'ho ancora installato su PC. Quindi niente, lo riprendo, mi dice bestemmio, lo respingo. Però sta lì. Andiamo avanti con l'altro punto. Sì, allora, è diciamo un punto gemello di quello che abbiamo appena concluso, ossia altra esternazione da vecchio. Ai miei tempi bastava premere dei tasti, perché fondamentalmente anche la struttura dei cabinati era, cioè, ci stava sì e no un joystick e poi sì e no uno o due tasti, tipo uno di salto e uno di sparo, per darti un'idea, e quello facevi e comunque riuscivi a portare avanti un certo tipo di gameplay, anche un approccio tattico molto profondo. Oggi invece appunto abbiamo un insieme con l'innovazione tecnologica, abbiamo oscilloscopi, sensori di movimento, forse anche un domani caschi con realtà virtuale o aumentate, esatto, l'Illumirum e quant'altro. Quindi, ricollegandoci un po' anche alla puntata, se vi ricordate, sull'accessibilità, come queste tecnologie come influenzano noi videogiocatori vecchi, che ormai le nostre capacità fisiche stanno comunque inequivocabilmente venendo meno? Come vive il geriatric gamer, diamo anche noi questo nuovo questo nuovo termine, l'inesorabile avanzare del progresso, e quali difficoltà si possono palesare davanti a lui nell'adattarsi in questo nuovo modo di giocare, che ad esempio abbiamo visto con le ultime presentazioni PlayStation 4, Xbox One hanno cominciato a sbandierarci. Luigi? Allora, innanzitutto sì. Geriatric gamer lo vedi a tua sorella. Vabbè, Luigi, sì, vabbè, prima o poi ci arriviamo. Sì. Non è che... Dunque, io sono volutamente provocatorio su questo punto. Innanzitutto dico che le nuove console hanno fatto, secondo me, un passo indietro rispetto a prima, riguardo alle periferiche di controllo. La mia premessa è questa: se tu vuoi sbandierare, l'ho detto molte volte, la tua nuova console come un nuovo modo di giocare, devi presentarmi delle nuove periferiche, qualcosa che abbia un nuovo modo di intendere il videogioco, perché me lo fai vivere con delle suggestioni diverse, con una partecipazione differente, e a livello proprio anche estetico io devo goderlo in un modo differente. PlayStation 4, che ha sdoganato tanto questo, non mi pare che abbia fino adesso presentato qualcosa di così eclatante. No, il Move è così innovativo. Sì, sì, è vero. Axis che è morto dopo un gioco. Anche magari solo come si approccia, appunto, sempre il videogiocatore vecchio stronzo all'idea di PlayStation 4 di essere così sociale, di dover condividere magari anche col tasto share. Vabbè, sono d'accordo con voi, però ricordatevi che la PlayStation 4 è l'unica che ha parlato di videogiochi. Sì. E dico passo indietro perché? Sì. Perché innanzitutto la famosa tecnologia, quella del 3D, che Sony ha spinto tantissimo, sì, non se ne è parlato più. È stato un evento totalmente abbandonato. Ma perché il 3D è una merda, dai, diciamo. Sì, sì, no, dico, ma io considero molte volte più che oggettivamente merda, anche incapacità di tu come azienda di poter spingere sulla tecnologia di cui magari sei proprietario, di cui magari sei fatto le ossa, in un modo innovativo e giusto per il videogioco. Faccio un esempio: il 3DS, il Nintendo, per quanto non sia utilizzatissimo, ha fatto vendere uno sfracelo di 3D, di 3DS, dopo c'è stato un abbassamento di prezzo. Perché? Perché evidentemente ha fatto gola questa capacità di poter guardare senza occhialini uno schermo in 3D, ma prescindere adesso dal risultato commerciale o dalla bontà, le periferiche ridisegnano il modo come giochiamo, e i vecchi giocatori, secondo me, se vogliono essere al passo con la propria passione, scusate l'assonanza, devono avere una capacità di poter ogni volta ridefinire il proprio piacere tattile, il proprio piacere visivo, uditivo o altro, con eventuali nuove periferiche. In questo modo praticamente uno si mantiene giovane, fra parentesi, quando vuole considerare il videogioco, quando vuole essere al passo con il videogioco senza considerarsi anziano. Questo non toglie che non mi pare che le nuove console presentino delle nuove periferiche o abbandonino i sistemi tradizionali di controllo. Anzi, mi pare che sono state abbastanza reazionarie, abbastanza conservatrici. Il pad l'hanno mantenuto, le forme del pad non si sono discostate più di tanto da quelle precedenti. E questo anche perché, come dicevamo nella puntata dell'accessibilità, alla fine sono gli strumenti ancora più universali. Sì, io capisco la domanda di Peppe, cioè nel senso, ovviamente rispetto al passato, sì, ci vuole una competenza maggiore per giocare, ci sono più tasti, c'è il joypad che ha molte più funzioni, sì, molte volte bisogna ridisegnare una mappa mentale, esatto, prima di poter approcciare al videogioco, e tante persone hanno questo problema quando vanno ad approcciare al videogioco, che magari si ricordano Pong o Pac-Man, perché c'è una competenza di mnemonica e tattile non indifferente per disegnare. Vabbè, la passata proprio... Pong a, che ne so, a uno, che ne so, Uncharted, insomma, sì, ce ne vuoi, è dura, è dura, è dura. Beh, sì, Ed è quello che poi ha provato a fare Microsoft con Kinect, nel voler eliminare praticamente il controller. Diciamo, se eliminiamo il controller, facciamo questo esperimento, ed il controller diventa il giocatore, dovrebbe essere talmente naturale per il giocatore controllare il gioco con il proprio corpo che eliminiamo preferibilmente una barriera che prima invece ci avrebbe causato pochi fallimenti dal punto di vista delle vendite. Poi il passo successivo è quello di eliminare direttamente il giocatore, cioè fare diventare il gioco che va da solo. Sì. Vabbè, continuiamo così, sono già arrivati, ci sono così giochi che fondamentalmente sì. si giocano da soli. No, sì, ma poi ecco, cioè, in realtà anche questo, che ritornando sempre alla puntata dell'accessibilità con Peppe, sì, facevamo un ragionamento l'altra volta, dicevamo sì, ok, io devo giocare e io sono il controller, però io, Simone Pizzi, peso 125 kg, dopo un quarto d'ora mi c'è la coronaria qua che comincia, sì, a battere, capito? Cioè, quindi è chiaro che continuiamo sempre a dire noi si possono inventare quello che gli pare. Però, mentre che il joypad concettualmente non si distacca tantissimo dal joystick, e quindi parliamo di un'esperienza che dura da 35 anni, forse anche di più, e tutto il resto è tutta sperimentazione, ma dove arriva? Dove va? Ecco, la domanda la faccio a Peppe io. Perché tu, Giuseppe, hai scritto nel punto che stiamo discutendo come vive sulla propria pelle il Geriatric Gamer l'inesorabile avanzare il progresso e quali difficoltà si manifestano davanti a lui nell'adattarsi al nuovo modo di giocare che PS4 e Xbox One hanno cominciato a sbandierare? Cioè, qual è il nuovo modo di giocare per te che hanno sbandierato? Perché cioè, io non l'ho visto questo nuovo modo di giocare, sinceramente. Era, diciamo, comunque volutamente volutamente provocatorio. Quello che, diciamo, loro ci vogliono spacciare come nuovo modo di giocare, che in realtà non è mai quello, ma... se ne parlava tanto tempo, esatto. Poi alla fine in sostanza non hanno detto un cazzo. Era aria fritta, esatto. Poi alle 3 vedrete che uccideranno Sony. Tranquilli, che... immagini c'è uno col cartello Microsoft, lo tu porta, sei Sony. Secondo me lo portano un giapponese, che ne so, lui è Sony. I Tommy Sony lo mettono lì, lui è Sony. Trai, danno una raffica di mitra in petto. L'abbiamo ucciso Sony, quindi vaffanculo. Era, diciamo, detto volutamente, quindi provocatoria. E da un lato, diciamo, poi c'è il mio, comunque, cioè io l'ho scritto perché comunque io provo comunque un disagio ormai, non lo so, sarà che ormai sto in una fase che comunque dico sto effettivamente invecchiando, visto anche che ho proposto un po' il tema di questa puntata, che in ogni caso noto comunque un certo spronare appunto a usare i controlli comunque vocali del Kinect, che loro tuttora cercano di spingerti anche con questa ennesima iterazione dell'Xbox a dovere comunque usare per forza nell'ambito pure mobile per forza oscilloscopi, cose assurde, quando appunto io potevo semplicemente muovere un analogico per far andare a destra e sinistra la mia macchina. Ora ti ho detto devo appunto inclinare il dispositivo, insomma comincio a provare un disagio, magari sarà appunto l'età che avanza biologicamente, però diventa ogni giorno più difficile, ecco. Ah, anche perché secondo me più passa il tempo e meno riusciamo ad adattarci, no? Anche se poi tutte, come l'ho detto, queste grandi novità, Stefano, lo fanno per noi, per farci adattare proprio meglio. Stefano e poi Marco, e poi andiamo avanti. Io velocemente vi dico che ad ora nessuna periferica, tranne un paio di casi forse con Wii Motion Plus, un paio di giochi, mi ha cambiato davvero il modo di giocare, cioè le millantate nuove esperienze non sono tali, continuo a trovarmi meglio con un pad normalissimo con i suoi tasti e finita lì. Cioè non... aspetto che in futuro ci sia qualcosa di più interessante, perché attualmente a me dell'oscilloscopio del sensore di movimento tutto sommato non è che mi abbia cambiato granché, anzi spesso e volentieri sono state solo delle rogne in più, tra virgolette, quando cercavano di portare tutti i giochi del Wii, ad esempio, col sensore di movimento, mi chiedevo ma perché non mi fate giocare tranquillamente col joystick? Esatto. Come sempre, perché sarebbe molto meglio. Lì rimpiangevo il pad classico perché dobbiamo dare ordine ai nostri comandi di squadra in Mass Effect con Kinect anziché come si fa, esatto, anziché usare il pad con l'interfaccia, lo storico Steel Battalion. Esatto. Sì, il gioco che non funzionava. Esatto, cioè hanno fatto una periferica enorme che funzionava in una maniera che ti simulava la perfezione e la procedura di accensione, ti simulava tutto del Mac. Poi hanno detto, ma no, facciamolo col Kinect. Col Kinect non funziona un cazzo. Esatto. Cioè, se questo è un nuovo modo di giocare, rimango tutta la vita col pad, non me ne frega niente, grazie. Sto a posto così. E continuo ad ora, anche appunto PlayStation 4 e Xbox, non ho visto niente di nuovo, sinceramente. Mi auguro che ci sia qualcosa di nuovo, che però sia studiato, che sia concepito per essere utilizzato anche in maniera limitata, anche da noi vecchi, anche da noi vecchi, no? Anche da noi vecchi, ma in generale che sia utilizzato in maniera intelligente, ecco. Cioè non te ne fai niente di periferiche nuove, di Kinect, eccetera, se poi funzionano di merda. ce sono tante cose che funzionano di merda ma che vengono messe sul mercato, cioè non mi stupisce più di tanto poi no, quello no, però non te le compro allora, cioè, molto semplice. Tu no, tu no, perché no. Tu sei in Svizzera, sei evoluto e non le compri, ma sai quante ne comprano nel mondo? Ah, no, quello non dubbio, c'è tanta gente che compra i dischi di Laura Pausini, okay. E non per questo li compro anche io, quindi giusto, giusto. Non è... No, invece per quanto mi riguarda, a parte ovviamente io ho sempre mouse e tastiera, quella vabbè, tutta la vita, mouse e tastiera tutta la vita, ma diciamo che per quanto ci si concentri ora a cercare nuove forme di controller per trovare nuovi modi di approcciarci al gioco, alla fine bisogna capire che per giocare a un gioco, per interagire con un videogioco, o usi la voce. Però immaginate a giocare a Mass Effect e dire destra, destra, spara, potere, lancio, cazzo, cioè è da scemi, è da pazzi, cioè non è, diventi, ma è ridicolo, perché proprio si perde completamente l'immersione. Forse sai dove potrebbe funzionare una cosa del genere? Sai che ci hanno provato con i giochi di calcio. Forse ce l'hanno già provato una cosa del genere. C'è tipo il riconoscimento degli insulti, tipo. Ah, che dice, ma fa culo e si buttava per terra. No, no, c'è il cartellino. Ah, vabbè, ma una cazzata. Sì. Però, cioè, giocare così si perde immersione, secondo me, parlare. Oppure devi usare le braccia, ovviamente. Come le usi le braccia? Le usi con un Kinect che devi sbandierare come una bandierina? Cioè, non c'è senso, no? Guarda, ragazzi, io sono un genio. Non c'entra un cazzo, però adesso io mi è venuta una cosa, voglio brevettare le avventure testuali parlate. Cioè? Che tu dai comandi parlati all'avventura testuale. C'è qualcuno che ti legge te l'avventura e tu gli dici... Usa apri scatola, bravo, esatto. Lascia con sono un genio, non so perché, cazzo. È venuta a mente questa cosa. Bravo, brevetta. Fatela brevettare subito prima che... Quando si fa mattino in questa avventura, tu stai dormendo, sapete cosa si sente? No. Bravo. Questo è un modo per dire, Marco, taglia. Taglia. Beh, poi altre braccia che ovviamente poi utilizzerò con un pad o col Kinect, che poi può finire anche in altri pertugi, oppure con un sistema, potrebbe essere più futuribile, di realtà aumentata, però più di quello, comunque sempre una cosa fisica devi avercela. O se no, un'altra cosa è utilizzare direttamente i comandi mentali, ma lì siamo proprio sul fantascienza. Quando arriveremo su quello, allora potremo dire, cazzo, c'è una grossa innovazione, quando cioè tu pensi a una cosa e la fai, pensi di mandare avanti il personaggio e lui avanti, allora ti metteranno un bel elettrodo in testa, si spera, o nel sedere, e allora potrai fare un tipo di gioco diverso. Quindi no, ma bello, non vedo l'ora. Ti metto un bel coso in testa e funzionerà così, però lì almeno c'è qualche cosa di veramente nuovo. Ricordiamo, no? Un film che abbiamo visto recentemente di Cronenberg, Existence, bellissimo film, bellissimo, che veramente è un film di serie C all'interno di un film di serie B. Perfetto, è proprio tutta quanta la fa bene. No, io ho detto, ho già espresso il mio disappunto comunque da vecchio stronzo che ormai non riesco più a stare comunque al passo anche con questi tiepidi tentativi, per cui vabbè, quello, il punto successivo in realtà l'aveva già comunque in parte spoilerato, anche proprio sviluppato in realtà Luigi, che appunto ci aveva spiegato il perché noi comunque a certi giochi restiamo attaccati, perché sono delle esperienze che abbiamo acquisito e rimangono dentro di noi e poi cerchiamo eventualmente in altri giochi futuri, per cui diciamo, direi comunque di saltare e a questo punto fare direttamente appunto a Luigi introdurci questo che aveva proposto lui, che si chiama saper riconfigurare ontologicamente il videogioco. Perché prima ce lo devi spiegare che significa, e poi dopo noi diciamolo, no? Ce lo devi tradurre. Certo. Vabbè, ontologicamente era per dire l'ontologia, ovviamente. Io ho letto ornitologicamente, devo dire la verità. Uccelli, uccelli del videogioco. Allora, non so. Prende il videogioco come ha un certo fondamento d'essere, esatto. Cioè perché esiste il videogioco, perché cosa sono le parti fondanti del videogioco che lo rendono tale, che ci fanno dire questo è il videogioco. Ecco, saperlo riconfigurare, quindi ricreare alla base, riconsiderarlo, vuol dire anche eliminare tutto l'aspetto eliminare, trasformare, sublimare tutto l'aspetto che invece ci porta ad allontanarci per mancanza di interesse, per età, per vari aspetti che poi come videogiocatori non ci nobilitano più. Quindi ho scritto saper configurare l'autoaggio di videogioco, ovvero come si può essere aperti, curiosi, creativi per se stessi nel ripensare di volta in volta la passione videoludica, trasformandola in qualcosa di più seducente e intellettualmente stimolante. E ho fatto degli esempi. Uno, e poi magari vi vado a spiegare, la convergenza culturale al servizio dell'artefatto videoludico. Due, il videogioco quale viaggio sostanziale per un'addizione esperienziale di vita alla vita. Tre, il videogioco quale performance virtuale altrimenti impossibile nel reale. Quattro, gli spazi videoludici quali universi paralleli abitabili per una ridefinizione della nostra identità liquida. Questi sono, ovviamente io ragazzi l'ho scritto in 448, quindi ho sintetizzato più che altro per me, per ricordarmi quello che dovevo dire. Non volevo essere cerebrale a questo modo, poi è rimasto così, va bene. Allora, la convergenza culturale al servizio del fatto videoludico, cioè quanto all'interno del videogioco è contenuto nelle altre arti espressive e viceversa. Il videogioco è anche letteratura, il videogioco è anche musica, il videogioco è anche, se vuoi, scultura, perché ha una rappresentazione 3D, quindi una tridimensionalità, quindi il piacere aptico del godere il videogioco. Noi con il Wiimote, il Motion Plus, possiamo anche muovere all'interno dello spazio, con il Kinect possiamo fare anche una serie di movimenti, o con il joypad del PlayStation DualShock anche dei movimenti possiamo fare nello spazio, quindi possiamo disegnare delle forme, se vogliamo, nello spazio davanti alla console. Questo cosa vuol dire convergenza culturale? Comunque vuol dire che si può amare di più forse il videogioco se lo accompagniamo a tanti altri media espressivi che poi lo vanno a caricare, a nobilitare, a rendere più interessante entrare con un discorso culturale in quello che stiamo giocando. Io faccio sempre ogni volta l'esempio di Grand Theft Auto. Quando ho giocato l'ultimo Grand Theft Auto, il 4, assieme all'accompagnavo visioni di film, mi sono rivisto Quei bravi ragazzi, mi sono rivisto Casino, mi sono rivisto Il Padrino, e quando giocavo a volte mi facevo anche un bicchierino, non lo nascondo, magari un vino o altro, e entravo all'interno di quel discorso del videogioco che da assaporare, quindi l'ideologia che sta dietro un certo tipo di discorso sull'immigrazione, perché se vi ricordate la trama di Grand Theft Auto 4 parla molto di questo riscatto di immigrati, di rivivere il sogno americano da parte dell'immigrato. Sì, sì. Esatto, quindi la mafia, la droga, bla bla bla. Questa la chiamo io convergenza culturale, cioè facciamo entrare la cultura, una cultura convergente, quindi tanti altri media espressivi all'interno del videogioco stesso. Questo forse ci ridisegnerà un interesse diverso per il videogioco, magari più profondo. E questo ce lo farà amare, ci farà tornare in voga la nostra passione. Quante volte ci è capitato che magari abbiamo perso l'interesse per un vecchio numero di Dylan Dog, faccio un esempio su tutti Dylan Dog per dire, poi ne sentiamo 4-5 persone parlare, perché Dylan Dog è bello, e tu dici, ora è vero, io ce l'avevo questo Dylan Dog, mi piaceva perché c'era questo e questo, e viene rinobilitato perché si è creato un discorso culturale attorno. Ecco, non dovrebbe mai morire questo aspetto di convergenza attorno alla nostra passione, perché più ne parliamo, come stiamo facendo adesso su mitologia videoludica, più ci costruiamo attorno a un discorso e più sarà bello andare a comprare Last of Us, faccio un esempio, perché è collegato a tutto un discorso di cultura videoludica che sta anche dietro. Questa, così intendo la convergenza culturale dell'artefatto videoludico. Non so se vogliamo commentare di volta in volta i punti, i quattro punti che ho scritto, oppure vado a vuota mazza. No, vai avanti, fino a quello degli spazi paralleli, degli universi paralleli videoludici, che quello mi interessa, perché poi c'ho pure un aneddoto mio. Ok. Allora, il secondo punto è il videogioco le viaggio sostanziale per un'addizione esperienziale di vita alla vita. Semplicemente questo. Non dimentichiamoci che se stiamo giocando non stiamo facendo altro, cioè non stiamo facendo altre esperienze. Ecco quindi che il videogioco ci permette di viaggiare all'interno delle nostre stanze, quindi questo paradosso, questo simolo del fatto di dire mi muovo stando fermo, questo videogioco, per un'addizione esperienziale di vita alla vita, cioè scusami, ma mi spiace che ti interrompo, sì, dico, ma questo che hai detto mi muovo stando fermo, sì. Ora se prima ti avevo fatto il, non so se ci fate caso, ma il videogioco è davvero la macchina perfetta, perché non solo se prima era la macchina del tempo perché ti portava indietro nell'infanzia e ti faceva rivivere certi ricordi eccetera, ora invece, come hai detto tu, mi muovo stando fermo, e addirittura lo stai paragonando al teletrasporto fondamentalmente. Sì esatto. Mm-hmm. Cioè che io cambio locazione, dislocazione, se vogliamo, è temporale, è di coordinazione spaziale, rimanendo nel mio ponte olografico, esatto, se vogliamo, che la mia stanza è lo schermo videogioco stesso. Perché un'addizione di vita, di esperienza di vita alla vita? Perché lo considero, io non potrò mai andare su Marte, sì, o sulla Luna, come in Mass Effect, per esempio. Mass Effect, questo è una cosa, no? Citiamo, giusto, no? Giusto. Okay, sì. Non lo potrò mai fare, però lo posso fare col videogioco. E io, se dovessi, facciamo le corna, gli scongiuri, domani abbandonare questa vita dal punto di vista fisico, io posso dire che virtualmente ci sono stato sulla Luna, ho provato alcune sensazioni ed emozioni dell'essere stato lì. Ecco perché aggiunge la vita virtuale alla mia vita reale. Anche la morte virtuale, quindi puoi anche dire di essere morto in diversi modi. Sì, se vuoi, esattamente. Morto e anche risorto. È anche risorto, quindi siamo un po' tutti dei. Esatto, siamo avatar. Sì, infatti sì, gli avatar significa divinità, esatto, nella lingua indiana. Punto numero 3, il videogioco con le performance virtuali altrimenti impossibile nel reale. Vabbè, questo non c'è bisogno di spiegarlo, posso compiere delle azioni che non posso fare nella realtà facendole come, attuandole come performance. Quante volte abbiamo goduto, ad esempio, anche Mass Effect semplicemente nel tirare fuori l'arma e puntarla davanti a noi prima di girare un corridoio, perché magari c'era un nemico o qualcos'altro. Beh, ma soltanto nei primi due, nel terzo stare con la Parisi, sì, così c'era un po' di fare altre cioè, e sì, questa cosa assurda io l'ho rimarcata, infatti quando abbiamo parlato di Mass Effect, perché mi è mancato proprio questa dinamica del tirare fuori l'arma. Perché è una performance? Perché noi stiamo recitando, quello è uno scenario, e noi instradiamo delle istanze soggettive che ci rendono protagonisti. Anche cacciare un'arma in Mass Effect è esaltante, è bello. E questo aspetto qui non lo potremmo mai fare nella vita reale. Oddio, potremmo cacciare un'arma, però non saremo magari dentro una struttura nel pianeta Aegis 4, per dire. Quarto punto e ultimo, e quindi Peppe adesso arriviamo al punto che mi dicevi, gli spazi videoludici quali universi paralleli abitabili per una ridefinizione della nostra identità liquida. Perché ho usato anche il termine paralleli? Ovviamente questo fa parte del discorso di prima, cioè ho sintetizzato una cosa che è un concetto un po' più grande. Parliamo dell'entanglement quantistico, cioè detta in soldoni, i fotoni si comportano come se potessero essere in due punti diversi nello stesso momento. È stato studiato a livello scientifico. Che vuol dire questo? Vuol dire praticamente che noi possiamo avere una sorta di universo parallelo al nostro, in cui ci sono tanti Luigi, tanti Giuseppe, tanti Stefano e Simone, che adesso hanno deciso. Io sono l'unico e pandimensionale, quindi io sono presente contemporaneamente ma me stesso in diverse dimensioni, questo non ce lo dimentichiamo. Però la differenza qual è? È l'aspetto creazionista, cioè tu hai deciso adesso di essere presente in questa dimensione, certo. mentre magari in questo stesso momento c'è un altro Marco che ha detto no, mi alzo e vado a pisciare, oppure quello l'ho fatto Marco prima, in questo momento dice no, però nessuno se n'è accorto, per dire, faccio un esempio. Cosa succede quindi? Succede che i videogiochi, quando io, perché sono così eccitato quando gioco ad un nuovo videogioco, mi piace quando vado a comprare un videogioco, perché stai per entrare in un'altra serie di universi fondamentalmente, esatto, io sto godendo di un altro universo su cui deliberatamente mi vado ad affidare, e quindi ecco perché è importante che l'esperienza sia di qualità, perché il cazzo, la mia vita non la voglio sprecare al cesso con dei videogiochi di merda, mi piacerebbe insomma sublimarla in maniera positiva. Quindi l'universo per me parallelo e abitabile mi rende ancora più a passo con la modernità, secondo la concezione, se vogliamo, di un filosofo, adesso non mi ricordo il nome, comunque di identità liquida. Puoi anche dire Smithner, tanto... sì, di Jack, scusate. Jeff Smithner. Von Streigenmensen. Aspettate, no, visto che stiamo facendo un'opera, datemi due secondi che ce l'ho qui il libro. E questo momento di vuoto dobbiamo riempirlo con qualcosa. Mettici una gallina, posso una occhia. Io sono d'accordo. Ah, sei d'accordo. Tu Stefano, sei d'accordo pure tu? Aspetta. Come? Cosa succede? Mi piace la definizione di identità liquida, perché è proprio quello che dicevo io, cioè noi dobbiamo scioglierci, fonderci fondamentalmente a livello di identità per poterne assumere quanto più possibile. Chi rimane rigido sulle nostre posizioni, mettiamo caso i nostri genitori, difficilmente ameranno i videogiochi, perché sono sempre legati a un concetto di io e di individualità molto forte e preciso. Non lo voglio criticare, non lo sto giudicando, però gli risulta molto più difficile per chi non è un nativo digitale o per chi non è diventato immergersi o perdersi, smarrirsi negli altri mondi. Noi possiamo farlo invece questo, perché abbiamo una sorta di esperienza, di conoscenza, ma anche di ridefinizione dell'identità con cui sappiamo giocare. Posso usare il termine videogioco, giocare. Ecco perché universi paralleli sono molto più probabili che facciano presa su di noi oggi, e il videogioco quindi è importante in tal senso rispetto magari ad altre persone che sono più conservatrici e molto più ancorate a loro stesse e a questa incapacità benevola, per carità, di non saper giocare. Queste sono le quattro dimensioni, secondo me, che possono farci riconfigurare poi, con un discorso ampio, ontologicamente il videogioco, per non perdere la passione nel tempo. Tutto qui. Quindi adesso Peppe magari sentire. Vado io innanzitutto mi devo congratulare con te, perché sei riuscito comunque in questa schematizzazione veramente a riassumere, secondo me, poi, che tutto il pensiero di questa puntata, nel senso del perché comunque a noi ci piace, arrivati alla soglia, chi quasi dei 30, chi l'ha superata ed è prossimo ai 40, ci piace comunque continuare a giocare, proprio perché. Ed è la cosa che mi rivedo in me, appunto, rivedo te in me, che proprio mi piace, a me, ad ogni nuova esperienza che so che sta per uscire, potere diciamo avere la possibilità di esplorare questa serie di nuovi universi, che comunque rispetto a te sono più d'accordo in realtà con quello che l'hai scritto piuttosto che come l'hai detto, cioè anche lo stesso gioco in realtà non lo considero come un solo universo, ma proprio una serie di universi, come avevi scritto invece, cioè, perché comunque anche quando io, per esempio, in un certo punto muoio e allora ritorno carico il salvataggio precedente e magari mi metto a fare una serie di scelte più o meno simili, in linea con quello che volevo fare, ma con piccole differenze, in realtà io là ho creato un'altra biforcazione, quindi un altro universo all'interno però dell'intero macrocosmo che è quell'unico gioco, giusto? Sì, e questa cosa a me mi ha sempre affascinato, perché io sto parlando ora di una cosa che vi farà una fantasia, diciamo, infantile, che però è quella che mi ha fatto scattare l'amore per i videogiochi e che tuttora mi porta avanti, che diciamo che io mi sono sempre visto nell'approccio con un nuovo videogioco proprio come quello che aveva l'esploratore che aveva la missione di entrare in questo strano nuovo mondo per poter, insomma, esplorarlo e magari anche dare una mano a quegli ipotetici abitanti. Dare una mano significava fondamentalmente vincere, sì. Portare a termine il gioco e vincere, no? Sì, e questa cosa, diciamo, mi ha sempre fatto impazzire, unita soprattutto al punto 1, cioè al fatto che comunque poi possa, a partire da questo, imparare a avere delle esperienze che alla fine hanno un impatto comunque sul mondo reale, perché anche se io ho un'esperienza di tipo alla fine escapistico col videogioco, cioè fugo dalla mia realtà perché magari sono più attratto appunto da queste dove so che non potrò fino alla fine dei miei giorni provare magari però so che sono esperienze che mi fanno insegnare qualcosa, che nel momento in cui una volta io ho terminato il gioco, però mi hanno, hanno un impatto alla fine anche su, sul mondo reale, come può essere appunto la, la discriminazione razziale o altri temi, no? Certo, è un prodotto umano, sì, sì, esatto. Per cui per forza si va a corroborare di tutte le tematiche anche sociali, esatto, e umane che sono riportate anche negli altri medium espressivi. Mm-hmm. Quindi è normale che ci sia questo, anzi deve esserci questo. Aspetti, altrimenti... aspetti sociali e umani che Marco non conosce. Assolutamente no. Non so neanche cosa sia, spiegaglielo, cioè, però, perché non lo sanno loro. La guerra, eccetera, che, tutto, che, non c'ho, che non c'ho sentimenti, che no, non hai sociale. No, okay, dai, non mi interessa di nient'altro. E Stefano invece? Io non ho niente da aggiungere. Davvero, no, 1001, 1002, 1003, libera. Guarda, c'è qualcuno su Twitter che ha scritto: dietrologia videoludica, Louis Brown, io sono d'accordo. Sì. Ma perché siamo in diretta? No, no, però no, l'ho scritto io. L'ho scritto su quelle pizze. Ah, semplicemente. Perché stavo dicendo tutte queste cazzate, ho detto, non sapevo che erano in diretta. No, no, non è che in differita fanno una, cioè, diventano no, meglio. Sono buone o sono cattive da subito. A me mi è venuta in mente soltanto una cosa, che però mi sa che avevo detto la prima e forse una delle uniche volte che sono stato a Retrocast, perché tu sai che poi dopo Non mi hanno più invitato, no? Ma anche ha ragione, insomma. Che riflettiamo sempre su questa cosa dell'universo, cioè nel senso sull'immaginazione di un universo che è dentro la macchina, no? Poi sì, alla fine non so se poi sia quanto più o meno collegato. E mi ricordo che quando io giocavo a FA 18 Interceptor, quindi torniamo al discorso dei simulatori dell'Amiga 500. Quindi copiato, ovviamente, diciamo. Copiato, riccamente copiato. Cioè, avevo, pensa che io mi sono comprato l'espansione da 500k a 1 mega per l'Amiga 500, proprio perché mi dicevano che c'erano delle differenze. In realtà le differenze erano che all'inizio c'era la musica, e poi quando c'erano degli effetti sonori tipo i freni e queste cose che nella versione 512 era la stessa cosa, pure per esempio con Operation Stealth di Delphine, che se mettevi la scheda di memoria praticamente c'era tutto il parlato, il sintetizzatore, esatto, però esatto. Ma terribile, fatto good morning, c'è una cosa terribile. Ne parlavamo ieri sera a Calavera Caffè, che tra l'altro sta per uscire. Calavera Caffè, il secondo episodio che sta per uscire. Dicevo che praticamente c'era questa cosa che il 3D era ancora un'esperienza estremamente blanda, no? nel senso è un'esperienza immersiva, cioè, ma veramente vero, quattro poligoni in croce, bravo, esatto, erano quattro. Però siccome che quando tu stavi lì, mi ricorda una puntata di Enterprise, Star Trek Enterprise, quando loro vedono per la prima volta un ponte ologrammi, no? E se meravigliavano del fatto, ah, ma cambia la prospettiva quando tu cammini, no? Ed era la stessa cosa, che tu stavi sull'aereo e ovviamente a secondo se scendevi o se ti alzavi o roba del genere cambiava la prospettiva, no? E quindi tu sapevi che quello era un calcolo sintetico che riproduceva visivamente quel tipo di ambientazione. Eppure in quel momento per te quello era un mondo. Non solo, ma anche le prime volte che tu lo sperimentavi, lo stesso, per esempio, il fatto di cominciare a fare detto dogfighting, evoluzioni assurde, produceva comunque in te una percezione sensoriale che davvero ti faceva quasi girare gli occhi, la testa, avvertivi comunque. Guarda, io quando e non perché il gioco era brutto, ma proprio perché comunque riusciva a trasmetterlo. Quando a tutt'oggi, quando guido una macchina, un aereo su un videogioco, sposto la testa ai lati, per vedere meglio, cioè mai una cosa. Vabbè, ma al di là di questa minchiata, dico, cioè, non è una minchiata, è la verità. Lo fai vedere? Sì, certo. Vabbè, allora è una minchiata. Preferisco pensare che è una minchiata. Perché io devo tornare a casa con te in macchina. Ma ecco, in macchina tu quando guidi pure fai così. Faccio le curve, sì. Vabbè, sposto un po' la testa. Il discorso era questo, no? Che quell'universo per me, cioè quell'angolo di San Francisco col ponte e tutte le missioni, le porte aeree, roba del genere, in qualche maniera esisteva. in qualche maniera tu lo stavi distruggendo. Io lo stavo prendendo a missilare. Bellissimo. No. Ecco, togli quel in qualche maniera. Esisteva davvero, esiste davvero. Cioè, quello esiste. Nel senso, tu hai dedicato il tuo essere concentrato in quel momento a quel gioco. Quella era la tua realtà. Cioè, dobbiamo cominciare a eliminare, secondo me. So che è difficile, perché ovviamente uno è abituato ai dati cognitivi della realtà. Sì, però la cosa, scusa se ti interrompo, la cosa paradossale è che oggi, con i motori grafici che hanno raggiunto un livello di fotorealismo e anche di come posso dire, di impatto di luce, anche no, se ci fanno continuare a fare vedere cani e peli sui bracci, vabbè, ok, sì, è vero, però insomma, cioè, oramai c'è il radiosity, no, c'è tutto la rifrazione della luce e tutto quanto. Oggi che il fotorealismo è talmente tale che se io giocassi a FA18 Interceptor nello stesso angolo di San Francisco con la grafica di oggi non mi darebbe la stessa sensazione. Cioè, allora, lì questo... era anche l'inesperienza, cioè, nel senso, io adesso sono smaliziato e lo so che quello è un motore grafico del cazzo, no? Mentre che invece prima, per me, quell'universo, quell'insieme di calcoli che faceva l'amica per cambiare la prospettiva, per me quel momento esisteva, cioè, era veramente un universo virtuale. Cioè, ci stava dentro la macchina, cioè dentro al computer c'era quel mondo. Tu eri malato. No, però era la percezione che tu c'avevi. Perché non è che andavi a fare. Cioè, oggi è chiaro, no? Perché Unreal Engine 500 miliardi di poligoni, 65 milioni di fotogrammi al secondo, frega un cazzo. Cioè, sai tutto quello che sta dietro al cofano. Prima non lo sapevi. O anche se lo sapevi, non c'era più niente. Era comunque affascinante il cioè, la prima esperienza. È come su Elite, no? Sì. Noi faremo una puntata su archeologia videoludica speciale proprio su Elite. Perché? Perché, vabbè, a parte che Alex è un super appassionato di quel gioco, ma io la prima volta che ho giocato a quel gioco, per quanto limitato e brutto, io mi sono sentito disperso nello spazio. Cioè, è una stronzata. Però Elite potevi. Cioè, aveva raggiunto livelli che, mi dispiace dirlo, noi tuttora ce li sogniamo appunto con l'ultimo Mass Effect. Ma perché in Elite tu potevi andare in qualunque minuscolo pianetino e esplorarlo interamente. Cioè, almeno Elite primo me lo ricordo così. Mi ricorda un po' sporre come possibilità di esplorazione, però. Io quando mi ho registrato per volta Retrocast, che ho parlato dell'elogio del retro gaming, ho parlato proprio di questo, Simone. Cioè, che meno elementi ci sono, quindi più diventa minimalista la rappresentazione sullo schermo o altro, e più noi interveniamo la nostra fantasia e rendiamo questo mondo più reale mettendoci del nostro, e il nostro è sconfinato. Noi abbiamo un bagaglio ovviamente di immaginario anche da bambini molto grande. Io gioco con i bambini, io attualmente faccio teatro con i bambini della scuola dell'infanzia, faccio sia il raccontafiabe sia il teatro. A quelli basta che tu chiudi due finestre, fai diventare buio e porti una lucetta, loro stanno in un altro mondo, ma ci sono veramente. Sai che significa? Loro credono di essere un altro mondo. E questo accade quando vai a togliere tutti gli elementi e ci costruisci del tuo con la fantasia. È molto più denso e ricco. Immaginate i primi Dungeons & Dragons giocati su carta. Cosa ha fatto la realtà videoludica? Ha soltanto apportato una struttura, un mondo vivibile in 3D, facendoci vedere quello che prima immaginavamo, dandogli dei connotati molto forti, molto caratterizzanti. E questo aspetto qui è quello che ha fatto la differenza tra il prima e il dopo. Ma se noi usiamo soltanto la nostra fantasia, adesso... Che poi infatti, se tu ti ricordi, è un po' quello che dice Bonaventura o che dicono Colombini, cioè nel senso, quando si parla di avventure testuali, no, si dice che comunque utilizzavano i videogiochi che utilizzavano la scheda grafica più potente dell'universo, no? Che è poi in realtà è la nostra fantasia, no? Perché poi tu comunque venivi immerso in un mondo che in quel momento eri tu che te lo dovevi elaborare, no? FA18 Interceptor era diverso, perché in realtà il mondo lì in quel caso esisteva ed era soltanto spartano, chiaramente spartano fino al midollo, però per comunque in quel momento, dentro a quel monitor, in quel momento quell'universo c'era, cioè il monitor ti proiettava qualcosa che stava lì dentro. Cioè, sì, e tu ti muovevi lì dentro. Il motore grafico di Star Trek. Esatto, bravo, la percezione è la stessa. Sì, sì, ma è la stessa. Cioè, non è... ragazzi, noi siccome siamo abituati adesso a razionalizzare quello che vediamo, cosa succede? Succede che gli diamo più un connotato di differenza, ci differenziamo fra l'io soggettivo e il monitor, che è un'altra realtà esterna a noi. Ma in realtà, quando siamo immersi, quando siamo in uno stato di trance videoludica, in cui ci siamo dentro il videogioco, noi il videogioco ci fondiamo e diventiamo la stessa cosa. Là non esiste più monitor, joypad, mani, grafica, eccetera. Cioè tu stai dentro e basta. Cioè tu diventi il videogioco. Poi io posso aggiungere un aspetto quasi magico di interazione con lo schermo, solo che non è mai a livello culturale così incensato, perché ci presentano sempre il giochino come bello questo, però adesso esce quest'altro, adesso è il nuovo. Ah, beh, sì, quello senza nero. Ma questo influenza in realtà. C'è uno studioso, Gianfranco Pecchinenda, che è uno studioso, diciamo, di sociologia del videogioco e insegna all'Università Federico II di Napoli, che tra l'altro è un mito mio di Lorenzo Antonelli, che qui saluto, il redattore di IGN, che praticamente durante una sua lezione disse, e io e Lorenzo eravamo lì, i videogiochi sono una cosa seria. Disse questa cosa qui, un professore che ha 45 anni, 46 anni, per dire. Anzi, vi invito a leggere il suo libro, si chiama Homo Video Ludens, se non sbaglio, Poi forse che sto dicendo una cazzata, vi do il titolo esatto. Fatto sta che questa persona praticamente disse che le riviste di videogiochi, per riviste si intende sia quelle online che quelle cartacee, sono capaci di ristrutturare l'apparato metafisico del videogiocatore. Cioè, cosa intende metafisico? Cioè, fanno da intermediari praticamente fra noi e la realtà videoludica, perché ci danno un certo modo di intendere a livello cognitivo il videogioco, le informazioni che ci danno, come ci presentano le immagini, i video e bla bla bla. Che vuol dire? Vuol dire che il potere di ridisegnare il videogioco attraverso questi mezzi espressivi di divulgazione e di giudizio, hanno questa capacità proprio di farci credere che il videogioco sia come ce lo raccontano loro e non come invece poi noi andiamo a giocare. Se cambiassimo totalmente i riferimenti culturali noi e dicessimo affanculo le riviste, affanculo tutto quello che sono apparato attorno, ora mi disintossico per 2 settimane, un mese da quello che so, e poi senza toccare nulla, e poi riapproccio con un videogioco, ci sarebbe tutto un altro aspetto cognitivo, un altro modo di parlare del videogioco rispetto invece a come siamo abituati a fare. Immaginate un ragazzino preso davvero negli anni 80 che giocava a Excitebike, per dirne una, in uno stabilimento al mare, lo prendi adesso e lo porti a giocare a un MotoGP oppure a un Gran Turismo o altro. Quel bambino dice ma che cos'è? Cioè non è capace, scambia la realtà per il videogioco e viceversa. Perché? Perché non è insozzato in maniera bonaria, uso questo termine, da tutto quello che è la discussione, il modo in cui ci vogliono far mangiare e ingoiare il videogioco stesso. Dico quindi soltanto questo: se cambiamo soggettivamente, se ci evolviamo soggettivamente e la guardiamo in un modo diverso, cambiamo anche il nostro modo di giocare, di godere del videogioco, che è la prima cosa fondamentale per non far morire la passione. Sì, io guarda, l'unica cosa che non c'entra, hai fatto una conclusione. Io poi adesso sentiamo un attimo, agito tutti quanti, poi penso che possiamo anche andare verso la conclusione. Mi è venuta in mente, ecco, questa cosa del bambino anni 80 trasportato oggi, no? In realtà poi io mi ricordo c'erano tantissimi giochi negli anni 80, appunto anni 90, che in realtà cioè, la stragrande maggioranza erano imbinariati nel loro schema, che era quello del gioco stesso, chiaramente. C'erano molti giochi che invece esulavano da questo gioco. Cioè, non so se vi ricordate, c'era quel gioco di guida 3D che tu potevi anche costruirti i tracciati. Insomma, vabbè, era per Amiga sempre, molto spartano anche quello come grafica. Lì, in realtà, il gioco c'aveva sicuramente una sua meccanica del gioco, però poi in realtà c'erano anche parti di gioco dove tu potevi fare quello che cazzo ti pareva. E questo succedeva appunto proprio anche nei simulatori di volo. Se vi ricordate, i simulatori di volo o facevi le missioni oppure volavi a fanculo, dove cazzo ti pareva a te. C'era una cosa particolare sempre su FA 18 Interceptor e anche su tanti altri giochi, che tu in realtà non c'avevi lo schema e non c'era quello che c'è su Fallout, che tu arrivi a un certo punto al confine del mondo, il muro invisibile, e quindi devi tornare indietro. Lì non esisteva, lì tu potevi andare all'infinito a fanculo fino a dove dovevi arrivare. Quello che vedevi, diciamo, sotto l'infinito, solo verde, esatto. Oppure soltanto il mare, esatto. Perché qua chiaramente non era previsto dal gioco, sì, quindi esatto. Però tu virtualmente potevi andare dall'altra parte del mondo. Ecco perché si ricollega al fatto che dice Luigi che quei mondi esistono, perché diciamo non sono limitati, ecco. Ma non certo, sono porzioni fittizie. Basta un po' di scienze di fisica, sì, di studio di fisica quantistica o altro. Cioè, i mondi, quei mondi hanno la stessa legittimità, esatto, di esistere o di essere, o di intridersi nella nostra memoria e le altre esperienze anche reali. Cioè, la cosa più sbagliata da dire è: i videogiochi sono tempo perso. È una castroneria concettuale. Non possono essere tempo perso, perché tu dedichi il tempo a vivere quel mondo e lo registri dentro di te, così come registri una persona, un'esperienza che vai fuori, un caffè che ti vai a prendere al bar dove succede qualcosa di notevole o che ti, poi ti ricordi. È la stessa cosa. Cioè, quel mondo esiste, non è che perché solo perché è virtuale, è costruito. Allora io potrei dire questo, potrei dire ok, un mondo costruito, ma la mente che sta dietro la costruzione, il game design di quel mondo, quindi anche gli algoritmi eccetera, è una mente umana, è quella che l'ha pensata, quindi il suo spirito sta anche dentro la macchina, dentro quel gioco in particolare. Quindi che vuoi dire? Vuoi dire che prende la realtà umana è traslata all'interno di un costrutto artificiale, che poi qua ci hanno costruito tutto con Ghost in the Shell, esatto, su questa cosa qui, no? Il fantasma nel guscio, non so se avete visto, sì, voi mai Ghost in the Shell. Il film, io e Marco non ci esprimiamo. No, Ghost in the Shell. No, potete farlo poi in maniera positiva su Ghost in the Shell. Ma è negativa, purtroppo. È il 2 che è una cagata. Due è una cagata, okay. Ma anche il primo è pesante. Pesante, no, però, cioè, insomma, il primo è figo. Il primo è pesante, brutto, pesante proprio. Però no, cadevo. Questi sono di Roma, vedono Naruto. Ma Naruto ce ne vedi te e tre quarti della palazzina tua, certo, eventualmente vivi in una palazzina. Ma a vedere derby. Scusa, noi sono laziali. No, vabbè, dai. Vabbè, boh, entriamo in disquisizione. No, comunque, cosa dice? C'è un forte... Salutiamo gli amici romanisti, comunque. Niente, va bene, poi... Ci sarebbe tantissimo da dire su, sì, questo. Io direi, guarda, a questo punto facciamo così, guardate, io perché poi noi ogni volta ci ripromettiamo sempre, cioè, vabbè, ci ritorniamo su questo tempo, e non è vero, però in realtà sì, sarebbe bello fare veramente una puntata random, cioè una puntata dove ci mettiamo lì, buttiamo, proviamo a buttare un tema e da lì sviscerà, perché poi anche con Luigi, io in tempi non sospetti, diciamo, sarebbe stato bello fare un podcast dove tre persone, quattro persone davanti a un fuoco, no? Cioè la rappresentazione tre o quattro persone davanti al fuoco che iniziano a fare discorsi ad cazzum, che poi in realtà possono poi arrivare ovunque, no? Perché poi qualsiasi tipo di discorso poi in qualche maniera, se ti prende, che puoi parlare veramente del metafisico, come puoi parlare anche anche di politica volendo, perché non è detto che, certo, che non debba essere un argomento trattato. Però purtroppo questa non è Retrocast, ma è l'ideologia videoludica. Mi dispiace per voi. Eh no, grazie a Dio, insomma, direi. E ricordati che l'ideologia videoludica è una tua creatura, quindi insomma non trattarla male. No, vabbè, era per scocciarti, dai. Io direi, allora, io Marco, se c'hai qualcosa da aggiungere o da dire, facciamo Marco e poi dopo Stefano e poi insieme a Saso andiamo a fare la conclusione, che... Possiamo anche andare direttamente a fare la conclusione. Okay, io sto punto non l'ho capito, per cui possiamo anche andare avanti. Ti è sfuggito proprio il... Stavo in un'altra dimensione. Stefano? Allora, io concludo dicendo, appunto, sono stato estremamente presente, magari, ma perché la sono forse vissuta quasi da ascoltatore la cosa, dando solo la mia esperienza personale, perché le cose che avete detto tutti erano estremamente interessanti, è che nel 90% dei casi condividevo, quindi non mi sembrava neanche utile. Che è la cosa più comoda, io sono d'accordo, quindi. No, beh, sono d'accordo. C'è uno su Twitter, cioè, così ha fatto prima. Concetto, di nuovo, allungando ulteriormente, mi sembrava davvero superfluo. Quindi questo è quanto. E consiglio comunque, per chi non l'ha fatto, per chi non lo conosce, a proposito del videogioco come realtà alternativa e così via, la visione del film Nirvana di Salvatore, bellissimo, che appunto tratta questo argomento nella maniera che insomma, come è stato trattato stasera. Pensa che paradossalmente qualcuno dice l'unico film di fantascienza italiano, dicendo poi un'aberrazione, perché in realtà, anche se molti non sanno, ce ne sono veramente diversi di film di fantascienza prodotti in Italia. Poi dopo, una volta pure di questo parleremo, insomma, non so dove e non so quando. Comunque sì, quindi appunto consiglio assolutamente visione del film, se vi interessa il tema, videogioco come realtà e realtà come videogioco, e guardatelo perché è notevole, appunto un film italiano secondo me ben riuscito nonostante delle critiche un po' dure in certi casi, ma io l'ho trovato, e anche nonostante Christopher Lambert, sì. Che così buttato a cazzo, era il creatore, sì, esatto, del film Cyberpunk, era il creatore del videogioco, mi pare, sì, perché il personaggio, esatto, no, il personaggio era cosa, no, il creatore del videogioco, Antonio era solo, sì, sì, che era che era il protagonista del videogioco, mentre invece, esatto, Lambert era il coso, il programmatore che aveva creato il gioco, sì, era il mio, cioè, della... io non mi posso dimenticare di questo film, tanto per avviso questa piccola parentesi, mi è rimasta memorabile quella scena, perché anche perché questo film io al lancio lo vidi pure al cinema, mi ricordo che a un certo punto, siccome durante il film ovviamente sia Lambert che Abbato Antuono interloquivano, praticamente a un certo punto lui li stava guidando fino alla fine del livello, gli diceva: in questo punto, se ti ricordi, c'è la scena che gli dice ad Abbato Antuono: ci sono, devi stare attento ai ladri di organi, sì. E allora gli risponde Abbato Antuono tutto diciamo alterato, dice: Jim, ma che cazzo ci hai messo in questo gioco? Non so se ti ricordi questa scena, delle trovate geniali, sì, che solleticheranno l'immaginazione, lo vedremo, a differenza di Existence, che noi Existence, se non l'avete ancora visto è da vedere, no, ormai l'ho visto, al 99%, no, in generale dico rimosso, ma l'ho visto. Vabbè, a questo punto, scusa, se vogliamo proprio fare la cosa, l'accoppiata, perché io, non per cosa, ma se proprio diciamo vi piace anche questo tema dell'altra realtà dentro la macchina, ovviamente chi non se l'è visto assolutamente vada a vedere solo il primo Tron. Vabbè, cioè, ovviamente. No, ma io poi quando penso, quando ti facevo il discorso di FA18 Intercepto, a me è quello, esatto, che veniva in mente, il fatto che comunque, cioè, la rappresentazione virtuale di un qualcosa che dentro c'era Simone Pizzi dentro l'aereo virtuale con la coppoletta luminosa in testa che guidava l'aereo. Bravo, è così. Ma è così, esiste il 13° piano? No, quello no. Quello, sì, cioè, quello l'ho cercato, sì, sempre di vedere, poi l'ho cercato adesso. Consigliato da Luigi in un retrocast, tra l'altro. Ve lo consiglio perché io lo trovo non superiore, non potrebbe essere, per carità, però comunque come concetto, come Matrix. Secondo me è un film sottovalutato, ma veramente bello. Io l'ho amato, ho detto questo è veramente un film sulla realtà virtuale, ma intesa a dei bei livelli, sull'intelligenza artificiale, eccetera. Ve lo consiglio. Bene, signori, allora a questo punto io direi che possiamo andare tranquillamente alla parte finale della trasmissione. Allora, pochi commenti. In realtà lo diremo anche in archeologia videoludica nel prossimo episodio, però lo diciamo qua in anteprima, perché il ragazzo, avrete notato che sul sito di archeologia videoludica c'è un certo Game Over che viene a che viene a commentare praticamente un po' tutto quello che scriviamo e anche le puntate, ci fa anche molto piacere. In realtà è un po' uno stalker, però noi in realtà noi avevamo già un altro stalker, noi lo ringraziamo perché in realtà lui è Enrico, che prima era precedentemente conosciuto come Guybrush77, che era il nostro stalker originale, esatto, che era un ascoltatore di archeologia videoludica della prima ora e che poi dopo si è allontanato per un periodo di tempo, non ci ha potuto ascoltare per problemi di salute, ci scrisse anche una mail e... non dovuti all'archeologia videoludica, cioè, non dovuti all'archeologia videoludica, semmai dopo insomma ha preferito non ascoltare per non aggravarsi, probabilmente, sì, però sicuramente anche io avevo fatto la stessa scelta, ascoltare. E infatti, comunque, noi ci fa piacere, insomma, aver scoperto ti tocchi mentre ci ascolti. Recentemente, sì, aver scoperto recentemente che Game Over è in realtà Enrico. E quindi bentornato. Che è tornato. Quindi diamo bentornato a Enrico, che vuol dire che ci ha fatto sapere anche che insomma il peggio, insomma, per c'è quanto passato, riguarda è passato, quindi ci fa veramente molto piacere averlo ritrovato. E ovviamente, così come è diventato un fan di archeologia videoludica della prima ora, adesso è diventato un fan accanito anche di etrologia videoludica, ci fa veramente molto piacere. Ci ha scritto ecco, noi abbiamo preso un commento, se è relativo alla puntata precedente, Che ricordiamo, la puntata precedente è sempre quella più bella, perché è sempre, sì, esatto, sempre anche se c'è tra la puntata precedente e questa puntata qua c'è la un'altra più bella, puntata c'è precedente. La più bella, che ovviamente, perché è quello della differita del live che abbiamo fatto per la presentazione di Xbox Antani, che eravamo io ci siamo quasi Xbox One, Xbox Antani, ma noi siamo troppo avanti. Non so se lo vogliamo leggere questa cosa, ma questo è momento un po' lunghetto, insomma, sì, io consiglio di leggerlo sulla commenti della puntata 11, sì, andare sul sito, di leggervi il commento, perché è molto interessante. Non solo, ma sul sito nei prossimi giorni pubblicheremo tanti articoli, ma tanti, proprio tanti, ma, no, marea ce l'abbiamo, no, pubblicata. Io mi complimento con Enrico solo perché cita uno dei giochi che io giocavo su Amiga, però mi piaceva un sacco, Speedball 2, sì, al Deluxe, sì. Dai. No, ma poi in realtà lui anche negli articoli, cioè, poi accende dei dibattiti. Poi ho visto, insomma, che parecchie persone, anche il nostro staff, insomma, alla fine c'è un batti e ribatti. Quindi, insomma, fa piacere anche vedere un po' questo fermento che avevamo detto. Vabbè, quindi questo sul sito, mentre che sulla pagina, insomma, poca roba, mi pare di aver capito. Tranne pagina, che su Google Plus, la pagina Google Plus ci sta sempre William Shatner. Ci chiede che cazzo siamo. What che aiuto a faga, io questo volevo sentire, perfetto, finalmente. Perfetto, e detto questo, ragazzi, allora salutiamo Luigi Marrone, ovviamente Luigi, se vuoi citare anche il tuo blog, anche se lo aggiorni una volta ogni zoppo de papa. Io vi ringrazio, ovviamente, se dell'ospitalità, come sempre. Che ospitalità? Tu ancora questa storia dell'ospitalità? Cioè, io mi considero, ripeto, ospite, il vostro è lo spazio, io sono, per vostra gentile concessione, un temporaneo ciarlatore. A tempo morto. A dead time. E niente, quindi saluto te, Simone, Stefano, Peppe e Marco. Vi saluto anche col mio amichetto il gallo. No, ma io voglio sentire la scimmia sodomizzata, dai. Aspetta, la scimmia, siete pronti? 3, 2, 1. Ma è un po' brutta sta cosa, comunque. Secondo te sodomizza, insomma. No, questi sono ma senti, con cui faccio giocare i bambini, tra l'altro, nel senso che bello, complimenti. Ancora non hanno chiamato l'assistente sociale. Allora, salutiamo Marco, che invece sappiamo che lui non ha blog. Io no, c'ho la pagina su Facebook. Luigi Marrone, sarebbe un'esperienza. Tanto loro parlano. Sì, sì, noi comunque stiamo parlando, se vuoi. No, no, anche... no, io non sento, intanto vi va via la voce. Ok, ok. Allora, salutiamo Marco, che lui invece non ha blog. C'ho la pagina su Google Plus, su Facebook. Okay. E gestisci le pagine di archeologia e di etnologia. Sono quello che riceve la posta di etnologia videoludica, e la scarichi all'altro, la scarico, e dico, oh, guarda, c'è sta questo che ha scritto sta cosa, che devo dire, manda a fa culo, no, e soprattutto, se ripeto, se siete degli scrittori che vi piace scrivere di videogioco, sui videogiochi, non necessariamente recensioni, ma anche a gratis, questo gratis, ovviamente vi paghiamo anche gratis. Perché quelli che lo dovrebbero fare non lo fanno, quindi se volete scrivere articoli, abbiamo qualche piccola lacuna, per cui abbiamo 15 redattori e 2 che scrivono, esatto. Cesarino, anche quelli nuovi che sono appena entrati già si sono stufati, ma Cesarino mo c'ha tempo tutto il mese per farla, okay. Voglio, quindi. Mentre invece salutiamo il padrone di casa, okay, che è ovviamente Giuseppe Saso, che invece lui il suo posto ce l'ha. Sì, mi trovate, diciamo, tutto il mio scrivibile in rete, tutte le mie produzioni nel mio blog su Tumblr, vitaingioco.tumblr.com. Perfetto, e mo pure te il computer è tornato, quindi ce l'avevi già al tempo. No, veramente un argomento ce l'ho. Ce l'hai, baby, infatti, se ce lo ricordo. Se poi lo posso dire, lasciamo la sorpresa di scoprirlo, altrimenti dopo tutto sul sito ci devono capitare secondo me è su Mass Effect. No. Io lo so niente. Su che cos'è, perché poi in realtà è un percorso che lui già ha iniziato in una certa maniera, quindi se... No, è quel, cioè quello, ma ne ho pensato un altro, vabbè. Sì, okay, l'altro stavo usando. Quindi ci abbiamo giugno e luglio posto. E meno male. E Stefano, a te, sì, l'onore di salutare i nostri ospiti, di chiudere la trasmissione, di lanciare la fantastica sigla finale e di andarcene tutti quanti a fanculo, insomma. Esatto, io saluto tutti, vi mando tutti a fanculo, quindi di conseguenza anche, no, a te, anche tutti. A te grazie, ringrazio tutti di aver partecipato, di gli ascoltatori di averci ascoltato, se ci avete ascoltato. Se non ci avete ascoltato, vi ringrazio comunque. Così, a babbo, a dead time. A tempo ciò, anche morto. Io in realtà sto preparando un articolo che è in bozze, infatti sto solo aspettando di essere abbastanza carico. Ma è determinativo o indeterminativo? L'articolo? Cioè hai messo in bozza qualche cosa? No, il l'articolo o un articolo? Quindi dobbiamo fare questo servizio, no, siccome sto aspettando di essere abbastanza carico di rabbia per scriverlo. Non penso che lo scriverò in treno nel tragitto che mi riporterà all'Italia, da Milano alla Sardegna. Esatto, esatto, Sardegna Express della Manica. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao. No, perché cioè stavo ti ricordi quel gioco? Com'era? Metal Gear? Gear, sì, Gear. Quello, quel personaggio, come si chiamava? Mario. Mario, sì, Mario, che gioco, che dove devi correre dentro il labirinto buio, tetro, dove si mangiavano dei pasticchi, ti ricordi? Come no? Quante partite... Che dopo che uscivi dal labirinto c'era la zona contaminata, ti ricordi? Mi ricordo. Ma come si chiamavano i nemici di Mario? Mi ricordo. Aspetta, così lì. I razziatori. I razziatori, bravo, sì, bravi razziatori. E ti ricordi quel ragazzo, quello di Chiri, quello che diceva che faceva l'ospite? Come si chiamava? Marrone, giusto. Com'era bravo, si vedeva che era istruito, che aveva studiato, no, come noi, che parlava tutto composto, tutta arzigogolata, che faceva quei ragionamenti tutti fantasiosi, pieni di cultura. Quanto era bravo, io non ci ho mai capito niente di quello che diceva. Manco io.